Allora, buonasera, siamo qui, il seminario, questo è il nostro seminario, secondo seminario sul lavoro, che si chiama Vite in equilibrio ai tempi del post-fordismo. E come appunto stavo dicendo, questo è il secondo seminario che il gruppo Verlan tiene sul lavoro e volevo appunto creare un piccolo raccordo per portare insomma, quello che già secondo me è stato importante del primo seminario che ha tenuto il professor Andrea Fumagalli. Appunto al riguardo. Oltre, insomma, essendo il professor Fumagalli un professore di economia politica, oltre a darci, insomma, delle linee di massima sul passaggio tra fordismo e postfordismo in termini appunto economici, quello che ci premeva e più sottolineare era la sua visione, insomma, la sua riflessione che ha portato in termini di precariato, che non è precariato semplicemente strutturale e strumentale, ma soprattutto esistenziale. Quindi insomma, questo porre l'accento su una condizione di disagio e instabilità generalizzata, appunto esistenziale. A questo la sua proposta è stata quella del Binitalia, cioè quello del reddito di esistenza, che in qualche modo, come il professore stesso ci ha detto al seminario, non è una proposta assolutamente rivoluzionaria, ma fondamentalmente mirante a stabilire un equilibrio, in qualche modo riempire quei vuoti che il precariato e il postfordismo crea appunto nell'esistenza di tutte e tutti noi. Due parole soltanto sulla serie di seminari che abbiamo progettato. Il gruppo Verlan appunto ha creato una serie di seminari che hanno quattro temi: lavoro, appunto, beni comuni, linguaggio e biopolitica. Quella che è la nostra intenzione è stata quella di creare uno spazio condiviso che sia prima di tutto proiettato in una partecipazione dialogata di questi seminari e soprattutto insomma, i quattro temi che stiamo mano a mano sviluppando, che poi avranno fine e conclusione in 1 o 2 giorni di convegno, sono temi che secondo noi rispondono a forti urgenze sia dal punto di vista della riflessione italiana e globale contemporanea, ma soprattutto per le nostre esistenze. Quindi insomma, giusto per farvi capire un po' la panoramica, possiamo dare la parola al professor Sabatini, che appunto, come avete già sentito, immagino, ci illustrerà questo passaggio tra fordismo e postfordismo. Mi sembra importante partire dal fatto che il primo approccio che ha avuto queste tematiche sia stato fatto da un collega che fondamentalmente è uno studioso di economia, perché al contrario quello che io cercherò brevemente di proporvi è piuttosto una riflessione su come si arriva alla nascita dei sistemi cosiddetti fordisti, al suo superamento nel cosiddetto post-fordismo, da un punto di vista sì economico, faccio lo storico dell'economia, ma appunto fortemente storico, cioè una prospettiva di evoluzione temporale. Per far capire che cosa voglio dire, e partendo dalla fine, dal punto di approdo del discorso, come dicevamo poc'anzi, vi invito a prendere la definizione, il post-fordismo, cioè dell'argomento oggetto del nostro incontro, che è a pagina 3 dell'utile prontuario, dell'utile glossario che è stato predisposto. Senza entrare nello specifico del concetto che le poche parole che vado a leggere che avete dinanzi vogliono significare, richiamo la vostra attenzione su una definizione di postfordismo, che peraltro è abbastanza diffusa ma non univoca, come esaurimento del ciclo fordista, di cui parleremo tra un momento, conseguenza della stessa alta produttività che lo caratterizza. Cioè un fenomeno che viene, adesso con parole che hanno bisogno di essere un po' riempite di contenuto, definito soltanto all'interno del fenomeno stesso, e come, diciamo, conseguenza di una sua dinamica tecnologica intrinseca. Si passa dal fordismo, cercheremo meglio di definire cos'è, al postfordismo, come una evoluzione della forma di produzione, conseguenza di forma di produzione che questo fenomeno configura. Ora, la rappresentazione che io cercherò invece di darvi, di condividere con voi, è opposta, nel senso che se noi vediamo come si arriva nell'evoluzione, diciamo, dei sistemi produttivi dalla rivoluzione industriale ad oggi, alla nascita del fordismo, come un'evoluzione fortemente vincolata all'adozione di determinate tecnologie, Al contrario, nel passaggio dal fordismo al postfordismo, e vi anticipo quindi il punto di approdo di questa conversazione, l'elemento di scelta politica, l'elemento culturale, se volete, è premiante, più importante di quello tecnologico. Quindi, tenendo presente questo punto di approdo, al quale ritorneremo, vorrei cominciare col fare un rapido excursus storico dell'evoluzione dei sistemi produttivi fino al fordismo e al suo superamento. Perché soltanto in questo modo, secondo il mio modo di vedere, si riesce a cogliere l'essenza più profonda del postfordismo. Per fare questo dobbiamo riandare brevissimamente, per ovvi motivi di tempo, all'organizzazione del lavoro nei sistemi pre-industriali. Quando noi parliamo di sistemi pre-industriali, se ci riferiamo a realtà europee legate indissolubilmente allo sviluppo industriale, tradizionalmente Francia, Inghilterra, ovviamente Germania e quant'altro, stiamo parlando di sistemi in essere fino, diciamo, alla prima metà del Settecento. Ma in realtà non perdiamo mai di vista, anche considerando fordismo e postfordismo, che i sistemi preindustriali sono intorno a noi ancora perfettamente in essere, perché è sufficiente abbandonare, dire, la sponda nord del Mediterraneo, abbandonare l'Europa centrale verso i Balcani, per ritrovare in essere quelle diciamo, categorie produttive che noi tendenzialmente leghiamo invece una visione squisitamente eurocentrica al passato. Ora, la nozione fondamentale su cui, da cui vorrei partire è quella del rapporto tra il lavoro, lo spazio e il tempo. Il tempo del lavoro nelle società pre-industriali è un tempo fondamentalmente dettato dai cicli naturali. Si lavora dal sorgere del sole al tramonto e ne segue che il giorno di lavoro non è sempre uguale, muta con il mutare delle stagioni e quindi con l'allungarsi e accorciarsi delle ore di luce, primo aspetto. E in secondo luogo, il lavoro è funzione delle stagioni dell'anno, perché come voi al minimo in contatto con l'esperienza contadina, i lavori che si fanno durante l'inverno non sono gli stessi durante la primavera né durante l'estate. L'inverno è una fase nella quale si prepara una serie di attività che sono dispiegate nelle stagioni successive, quando invece dalla semina, raccolto, addirittura a seconda dei diversi tipi di produzione, il lavoro è maggiore e diverso nella primavera, estate, autunno e così via. Perché questo concetto è fondamentale per il discorso che facciamo dipanando sino a noi l'evoluzione delle condizioni di lavoro? Perché il primo elemento su cui si deve chiamare l'attenzione nel passaggio da società pre-industriali a società industriali è la rottura, la frattura netta e violenta del rapporto spazio-temporale nella definizione delle condizioni di lavoro da parte dell'uomo, dove io intendo, questo è bene dirlo subito, in questa parte del seminario, nell'accezione più comunemente data, l'uomo inteso come l'uomo e la donna. Io non affronto, come abbiamo già detto prima con le vostre colleghe, una prospettiva di genere per separare le due parti del seminario, mentre invece darò, tranne i due punti che introdurrò tra breve, una presentazione che non prende in esame questo particolare aspetto, cioè la distinzione di genere nella trasformazione delle società da preindustriali a industriali, da fordiste a postfordiste. Nelle società industriali, sostanzialmente con l'emergere del soggetto fabbrica, questo rapporto che abbiamo così brevemente introdotto viene completamente sovvertito. Innanzitutto perché il lavoro nell'ambiente della fabbrica, come sapete o potete facilmente intuire, non ha un vincolo, se non per determinati tipi di produzioni dette appunto stagionali, con l'alternarsi delle stagioni dell'anno. Un alto forno produce acciaio indifferentemente inverno, primavera, estate, autunno. E d'altro canto non esiste più il vincolo del lavoro rispetto alle ore di luce del giorno, perché appunto l'introduzione nella metà del Settecento in poi dei sistemi di illuminamento artificiale, i primi dei quali a base di acetilene, cioè di gas sprigionato al carbone, nell'induzione con l'acqua, fa sì che non ci sia più necessità di legare le ore di lavoro alle ore di luce. E soprattutto, sin dalle prime manifatture inglesi, si introduce, racconta già Adam Smith nel terzo quarto del Settecento, si introduce la consuetudine del ciclo continuo del lavoro, cioè di lavorare indifferentemente con turni di lavoro che si susseguono mattina, pomeriggio, sera, notte, mattina presto e così via. Allo stesso tempo, l'elemento che marca in questa, diciamo, schematicissima rappresentazione il passaggio dal mondo prima della fabbrica al mondo della fabbrica è indiscutibilmente l'allungamento degli orari di lavoro e l'intensificarsi, la crescita dell'intensità del lavoro. Come voi probabilmente saprete, nelle prime società industriali, ma questo è ancora largamente diffuso in molti paesi in via di sviluppo, gli orari di lavoro oscillano con variazioni legate ai tipi di produzione tra un massimo di 16 e un minimo di 12 ore. In ogni caso sono degli orari di lavoro di gran lunga più lunghi di tutti gli orari di lavoro che il mondo preindustriale conosce, se non in determinati tipi di produzione agricola che richiedono uno sforzo molto concentrato per un numero di giorni limitato, come ad esempio quando si fa la spremitura dell'uva e così via. Ora, la fabbrica è senz'altro, diciamo così, l'attore principale di tutto il discorso, il protagonista di tutto il discorso, che lega prima rivoluzione industriale, fordismo e post-fordismo. La fabbrica è infatti il luogo nel quale si attua per la prima volta, e chiedo scusa per alcuni di voi questi concetti sono ovvi, però sono un filo conduttore dal quale non si può prescindere per una chiarezza del discorso, è il luogo nel quale si realizza la divisione del lavoro. Che cosa è la divisione del lavoro? La divisione del lavoro è il principio in base al quale se il lavoratore compie un numero ristretto di atti durante il ciclo produttivo, li compie meglio e producendo di più che non facendo invece un ventaglio più ampio di operazioni. Si cita sempre in questi casi il famoso esempio di Adam Smith, tratto dalla Ricchezza delle Nazioni, il famoso saggio edito nel 1776, in cui Adam Smith dice che il fabbro che voglia fare degli spilli prende un metallo ferroso, lo fonde, ne fa un panetto, un lingotto di ferro, lo arroventa, lo mette sull'incunine, lo batte, ne fa una lamiera, la taglia in strisce sottili, a sua volta la spezzetta e di questi piccoli pezzettini di ferro realizza prima una capocchia e poi la punta. Tutte queste operazioni, 8-10 operazioni, fanno sì che un fabbro che produca spilli in un giorno ne produrrà qualche decina di unità. Se invece di avere un fabbro che fa da solo tutte le funzioni per la produzione degli spilli, abbiamo un gruppo di 4-5 operai, uno dei quali fonde il metallo ferroso, un altro che batte sull'incudine il panetto di ferro, un altro che taglia e così via, non avremo poche unità moltiplicato il numero degli operai, ma avremo qualche migliaia di spilli. Allora l'esempio di Adam Smith si applica in realtà a un vasto ventaglio di processi produttivi e sta a dire che se invece ogni operaio fa di far tutto, fa soltanto un gruppo molto limitato di azioni, questo aumenta la produttività del lavoro, cioè aumenta la quantità di prodotto che al termine della giornata, della settimana, dell'anno sarà a disposizione del proprietario della fabbrica. L'altro elemento che ci porteremo appresso fino alla fine di questo discorso, il post-fordismo, è ovviamente la macchina. La divisione del lavoro esiste e sussiste nella misura in cui si applica a macchine che assolvono una parte delle funzioni produttive tradizionalmente assolte dall'uomo. Nella prima rivoluzione industriale la macchina per eccellenza è il telaio meccanico. Il telaio era, come voi sapete, uno strumento la cui invenzione si perde nella notte dei tempi, che tradizionalmente era stato utilizzato in ambito domestico per ogni nucleo familiare produrre quel tanto di abiti di cui aveva bisogno, ma che tende con la rivoluzione industriale a standardizzarsi e soprattutto a meccanizzarsi, nel senso che tutta una serie di funzioni che prima venivano fatte manualmente, l'uomo, la donna, nel muovere il telaio, vengono complessivamente, progressivamente, accorpate nella capacità autonoma della macchina che, mossa dall'energia, prima dall'energia dell'uomo stesso, quindi dall'energia idraulica, i primi grandi telai mossi dall'acqua canalizzata dell'Inghilterra della fine del Settecento, più in là dei telai mossi dal vapore e così via, fa sì che il ruolo dell'uomo tenda a ridursi sempre di più a una funzione puramente accessoria. Ora, divisione del lavoro e ruolo della macchina nel circuito produttivo con la rivoluzione industriale fanno sì che questo processo di distacco dell'uomo dalla natura attraverso il lavoro, che è invece l'elemento di adesione caratteristico delle società preindustriali, vada crescendo nel corso delle società industriali dell'Ottocento. Questo distacco ha oltretutto la sua origine, anche questo è un elemento che ritroveremo tal quale nel passaggio dal fordismo al postfordismo, del cosiddetto principio dell'alienazione. Alienus, come voi sapete dal latino, altro, diverso, è infatti colui il quale nel circuito, nel ciclo produttivo, non si immedesima più nel lavoro che fa e nel prodotto. Il contadino che semina la terra e raccoglie il prodotto ha anche biologicamente un'identificazione con la fase di gestazione del prodotto della terra, che chiaramente l'operaio che fa solo una, che assolve solo una funzione nel circuito produttivo e che questa funzione svolge senza vedere quello che c'è prima né quello che c'è dopo, non può avere, è alienus, è distante da questo prodotto. Tutto quello che abbiamo brevissimamente ricordato si compie nella fase cosiddetta della prima rivoluzione industriale. Il concetto di fordismo invece, come voi sapete, cronologicamente si pone in una fase successiva. La prima rivoluzione industriale è patrimonio, se non altro, delle grandi economie industrializzate di Inghilterra, Francia, Germania e altre aree dell'Europa centrale nella prima metà dell'Ottocento, come ad esempio si evince chiarissimamente leggendo le pagine di Marx scritte alla metà dell'Ottocento, quando appunto ai suoi occhi l'Europa settentrionale appariva già un mondo di piena industrializzazione. Il fordismo invece appartiene a quella fase che siamo usi definire come la seconda rivoluzione industriale. La seconda rivoluzione industriale può essere intesa tanto come fase di estensione della prima, come invece come una rottura rispetto ad essa. Nella seconda rivoluzione industriale noi ritroviamo evidentemente gli stessi attori della prima trasformazione, che sono quelli della fabbrica, dell'operaio, della macchina e della divisione del lavoro. Ciò che cambia è in qualche misura la combinazione di questi ingredienti. Per capire in modo anche simbolico il passaggio che noi leghiamo alla seconda rivoluzione industriale, e poi diremo perché lo definiamo fordismo, è necessario ricordare che è in questa fase che si presenta un nuovo attore del processo, che è la catena di montaggio. Come voi probabilmente saprete, anche perché la catena di montaggio è spesso ancora utilizzata come diciamo sinonimo di industria, ancora recentemente nella pubblicità di una popolare autovettura si vedeva appunto una macchina che veniva mossa da una catena di montaggio di uno stabilimento automobilistico. Evidentemente la catena di montaggio è quel meccanismo che porta il manufatto industriale in giro per i diversi reparti di una fabbrica, sul quale manufatto si va via via applicando il lavoro dell'uomo. Questo ha una serie di importanti implicazioni. Nel passaggio dalla prima alla seconda rivoluzione industriale, l'introduzione della catena di montaggio, l'uomo che lavora con le macchine nella fabbrica diventa sempre di più macchina anch'esso, per la elementare ragione che rimane fisicamente nello stesso spazio, o in uno spazio molto molto contenuto, perché sarà il manufatto industriale che si sposterà per i vari reparti. Il settore produttivo che per eccellenza utilizza la catena di montaggio è il settore automobilistico. Sulla scocca, cioè sulla struttura di base dell'automobile, vengono via via montati i pezzi che ne costituiranno alla fine la manifattura complessiva. Le ruote, il motore, l'interno, gli sportelli, sino, ripeto, a partire da uno scheletro nudo ad arrivare al manufatto completo e definitivo. Ma non è soltanto questo l'elemento nuovo della seconda rivoluzione industriale rispetto al lavoro e a fabbrica. L'elemento fondamentale è la parcellizzazione del lavoro. Qual è la differenza tra divisione del lavoro e parcellizzazione del lavoro? La parcellizzazione del lavoro è l'esasperazione della divisione del lavoro. Se nella prima rivoluzione industriale io operaio compivo una serie di gesti numericamente limitati intorno al manufatto industriale, questi gesti tenderanno ad essere ancora di più essenziali, ridotti nello spazio, nella ergonomicità degli stessi. Anche in questo caso un'immagine vale più di mille parole. Nell'immaginario collettivo, come usa dire, la catena di montaggio e la parcellizzazione del lavoro si lega a un'immagine che certamente conoscete, che è quella di Charlot in tempi moderni. Se ricordate, Charlot in tempi moderni è un operaio che deve all'infinito abitare due bulloni. C'è una catena di montaggio che gli fa passare davanti un qualche manufatto industriale che non si capisce cosa sia, e lui deve stringerli all'infinito, sinché, se ricordate, diventa lui stesso una macchina, perché continua a fare questo gesto di stringere i bulloni anche quando il lavoro finisce, anche quando non è più uomo-macchina tra le macchine. Perché questo tipo di processo industriale che vede l'introduzione della catena di montaggio e il ruolo del lavoro parcellizzato viene detto fordismo? Perché si lega a un imprenditore ben noto, Henry Ford Senior. Henry Ford Senior è il signore che per primo, prima della fine dell'Ottocento, intuì che le automobili, che erano all'epoca un prodotto di lusso, le prime automobili, come forse saprete, venivano fatte con una cura squisitamente artigianale, venivano fatte con un'estrema attenzione ai dettagli, alle rifiniture, prodotte in una misura piccolissima e destinate a un pubblico assolutamente d'elite. Henry Ford Senior, al contrario, intuì, e ovviamente poi il tempo gli ha dato ovviamente ragione, che l'automobile poteva diventare un bene di consumo non destinato a un'elite ristretta, quindi non di extra lusso, ma un bene di larga diffusione inizialmente, che poteva gradualmente raggiungere delle fasce di reddito medie, medio-alte all'inizio e medie, e che nel tempo sarebbe diventato un bene di consumo di massa. Quando per la prima volta teorizzò queste cose, fu considerato un matto, un visionario, più o meno come se io dicessi in questo momento che tutti abbiamo diritto ad avere la nostra astronave parcheggiata sotto casa, cioè questo cretino, un visionario. Però all'epoca l'idea di fare della macchina un bene per tutti era, ripeto, equivalente adesso a dire io ho lo shuttle sotto casa e lo uso per andarci in giro. Perché Ford ha questa intuizione? Innanzitutto perché il primo a capire che la catena di montaggio, che già si diffondeva nella industria meccanica, soprattutto negli Stati Uniti e più tardi in Europa, avrebbe permesso di ridurre drasticamente i costi di produzione. E, in secondo luogo, perché è il primo ad aver intuito, Henry Ford non era un teorico, anzi, probabilmente di molte cose aveva soltanto una conoscenza intuitiva e se richiesto di spiegarle poteva arrivare soltanto fino a un certo punto, il che impediva, al contrario, che sapesse come farle, come farle funzionare, perché intuì che questo poteva essere un campo di elezione per l'applicazione di un principio economico che sarebbe poi meglio stato spiegato, che era quello dell'economia di scala. Che cos'è l'economia di scala? Se io produco 100 macchine, il costo unitario di ogni macchina è 10, ma se ne produco 1000, il costo unitario di ogni macchina è 5, perché risparmio, senza entrare nei dettagli tecnici del tempo, ci interessa più di tanto, perché risparmio nell'approvvigionamento di materie prime, perché risparmio nell'illuminazione o nel riscaldamento di una fabbrica, perché risparmio sui costi di distribuzione. Certo è che se io produco di più, più produco, più il costo unitario di ogni bene che produco è basso. Accanto a Henry Ford e agli altri imprenditori che come lui intorno di anni, tra la fine dell'Ottocento e il principio del Novecento, si preoccupano di questo tipo di possibilità di diffusione di beni di consumo di larga diffusione e poi di massa, vi è però anche un teorico. Noi parliamo di fordismo o anche di taylorismo. Taylor invece sì è un teorico, non è un imprenditore. Taylor era un ingegnere che aveva una funzione di prevalentemente misurare i cicli, i processi produttivi, era una specie di ispettore, viene sempre rappresentato con un cronometro in mano Taylor, e osservando quello che già accadeva, quindi come Adam Smith in realtà trasforma in teoria uno sviluppo industriale che già c'è, così Taylor trasforma in teoria una pratica, un saper fare che già esiste. Taylor è colui il quale darà veste scientifica, il taylorismo appunto, al fordismo, cioè all'idea di utilizzare la catena di montaggio come spazio di elezione per la produzione e anche come luogo della parcellizzazione del lavoro. Che mondo è il mondo che si articola intorno al lavoro fordista? Questo è il primo punto su cui noi dobbiamo riflettere per capire il processo, il passo successivo, che sarà quello del passaggio dal fordismo al post-fordismo. Il mondo del fordismo, il mondo della catena di montaggio, è un mondo fondamentalmente disciplinato o che si vuole disciplinare. Io vi prego di cogliere proprio il simbolismo che vi è tra un mondo del lavoro in cui ognuno è fermo in un luogo e svolge una ed una sola funzione e una società nella quale si vorrebbe che ciascuno avesse un suo posto fisso e svolgere una ed una sola funzione. Si potrà dire che il paragone parallelo è ardito, ma se noi vediamo come nella diffusione del fordismo cronologicamente in che fase stiamo? Siamo in una fase che va tra la fine dell'Ottocento e sostanzialmente la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale, anzi, è un momento di forte diffusione dei processi fordistici in tutto il mondo, al di fuori anche dei paesi tradizionalmente più avanzati, per un motivo molto semplice. La guerra richiede produzione bellica. La produzione bellica è innanzitutto produzione meccanica e siderurgica. Siderurgia e meccanica sono i due campi di elezione dell'applicazione del fordismo e delle catene di montaggio. Dunque la guerra è il momento di grande diffusione di questo modo di produrre. E quando la guerra finisce, noi assistiamo a un fenomeno che è ben noto di diffusione in tutta l'Europa, ma anche fuori dall'Europa, si pensa al caso del Giappone, nazione anch'essa industrializzata, di regimi autoritari o totalitari. Ora, i regimi autoritari o regimi totalitari, senza ahimè avere il tempo purtroppo di entrare in questo tema che pure sarebbe molto interessante, sono quei regimi in cui l'individuo è invitato a non pensare, a compiere meccanicamente degli atti, a essere esso stesso macchina. Ripeto, il tema di per sé meriterebbe di essere affrontato più lungamente, però vi prego di ritenere questo passaggio, cioè nel fatto che la introduzione e la diffusione dei sistemi fordistici, in particolare dopo la fase della prima guerra mondiale, corrisponde a l'interruzione di quel circuito virtuoso di evoluzione delle democrazie liberali ottocentesche verso sempre maggiori spazi di rappresentatività. Vi ricordo nel caso italiano che ad esempio le prime elezioni a suffragio universale maschile furono nel 1919, e al contrario però poi, come nel caso italiano e in molte altre realtà nazionali, vi è la progressiva chiusura in regimi di tipo autoritario o totalitario. Ora, sulle società fordiste e sulle società che scelgono delle strade di tipo autoritario o patiscono delle strade di tipo autoritario o totalitario, si abbatte come momento di cesura la crisi del 29 e la fase di depressione degli anni 30. Non abbiamo anche in questo caso il tempo di, indagare su questo aspetto nella nostra particolare prospettiva, che è quella di dire che cosa cambia della società fordista la fase della crisi degli anni 30 e che relazione c'è. L'elemento che però, anche in questo caso, pur molto brevemente vi prego di ritenere, è quello che innanzitutto dalla crisi degli anni 30 si esce definitivamente soltanto con la Seconda Guerra Mondiale. Un'altra guerra, un altro momento di diffusione, di adozione di tecnologie legate fortissimamente al fordismo nel campo della meccanica e della siderurgia, ma anche il momento in cui in qualche modo il sistema produttivo fordista impara dagli errori che hanno portato alla crisi del 29, perché però per brevità non possiamo vedere, e all'indomani della Seconda Guerra Mondiale cercherà, come dire, di fare tesoro di la conoscenza di questi errori per evitare che essi si ripetano, sebbene le cose, come cercheremo di vedere, andranno diversamente. Voglio dire con questo che se la prima e la seconda guerra mondiale sono dei momenti di grande consolidamento dei sistemi produttivi fordisti, la crisi che c'è in mezzo, la crisi degli anni 20, della fine degli anni 20 e degli anni 30, non è tale da mettere in discussione quel modello. Quel modello sarà messo in discussione, come vedremo tra breve, soltanto molto più in là. Vi è però una differenza fondamentale. La crisi degli anni 30 rende, evidente che i sistemi fordisti hanno tutto da guadagnare da un clima, di democrazia dei consumi, cercherò di spiegare tra un attimo di che cosa stiamo parlando, che non da dei regimi autoritari o totalitari. Che cosa significa questo? All'indomani della Seconda Guerra Mondiale vi sono una serie di importanti momenti in cui, promossi dagli Stati Uniti, ma con la partecipazione di tutti i paesi occidentali, si riflette su come dare stabilità al sistema economico per evitare che si riproducano quegli scossoni, vuoi politici, vuoi economici, che erano stati tipici del periodo tra le due guerre. Ora, nella maggior parte dei paesi occidentali, nella maggior parte dei paesi che si legano con degli accordi di tipo politico militare agli Stati Uniti, si diffonde un modello cosiddetto di democrazia, al quale però per la prima volta si aggiunge un termine che nella storia non era mai stato utilizzato. Era stata la democrazia ateniese, era stata la democrazia liberale, era stata la democrazia plebiscitaria, non si era mai parlato della democrazia di mercato. Questo termine mette insieme due elementi apparentemente distanti che trovano il loro punto di incontro proprio nel fordismo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i sistemi produttivi hanno molta più, diciamo così, convenienza e quindi una loro perpetuazione ad crescere, a crescere in un clima di democrazia di tipo parlamentare con delle forme di rappresentatività che variano da singola realtà politica a singola realtà politica, ma che sono contraddistinte dalla possibilità per vasti strati della popolazione di avere accesso a dei consumi anch'essi vasti, ovvero di massa. In altre parole, all'uomo operaio macchina dei regimi autoritari totalitari si preferisce l'uomo operaio macchina consumatore delle democrazie di mercato. L'individuo viene sempre di più ridotto all'interno di un letto di procuste di individuo produttore come operaio e macchina e individuo consumatore, macchina anch'essa per la graduale discesa dell'appiattimento dei gusti e delle preferenze verso appunto i consumi di massa, perché questo appunto eviterà una serie di, diciamo, effetti nocivi alla perpetuazione del sistema produttivo stesso che invece erano stati tipici del periodo tra le due guerre. Io mi scuso di dover andare così rapidamente, ma se deve essere un affresco, poi se volete possiamo tornare su alcune cose, altrimenti non riusciamo a, diciamo, a compiere questo brevissimo sistema che vorrei illustrarvi. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente per un quarto di secolo, fino alla fine degli anni 60, nei paesi che hanno conosciuto l'adozione tra fine 800 e primo 900 dei sistemi di produzione fordistici, si assiste gradualmente alla creazione di una base sempre più ampia di un ceto medio-basso, la cui remunerazione nel lavoro permette di accedere a determinati tipi di consumi pur senza innescare in questo modo, se non percentualmente, dei veri e propri meccanismi di elevazione sociale. Possiamo domandarci infatti se la possibilità di accedere a dei livelli di consumo più alti sia di per sé sinonimo di elevazione sociale, oppure se questa si debba intendere allorquando, ad esempio, ricorre alla possibilità di un miglioramento della propria condizione di formazione. In molte società permane infatti una sostanziale stabilità sociale. I figli dei contadini sono contadini, i figli degli operai sono operai, i figli di professionisti sono professionisti e così via. Anche se è indubbio che nelle società postbelliche la dinamica sociale cresca molto di più rispetto alle precedenti. Un altro elemento che, come vedremo, scomparirà invece nel postfordismo. Quando è che questo modello inizia ad andare in crisi e così ci avviciniamo al passaggio fordismo-postfordismo? Il primo momento di crisi del sistema fordistico dell'economia di mercato, degli individui produttori e consumatori di massa, si produce senza dubbio negli anni 70. Ora, il periodo degli anni 70 è un periodo estremamente complesso e la crisi degli anni 70 si lega a un vasto complesso di fattori, il più importante dei quali, probabilmente lo saprete, è la cosiddetta crisi petrolifera, cioè quell'insieme di fattori di natura politica che fanno sì che il prezzo del petrolio, da che era un prezzo politicamente molto basso, diventa un prezzo, come tuttora, politicamente molto alto. La quantità di petrolio è esattamente la stessa prima e dopo il 1973, il fatto che prima costasse poco e adesso costi tanto e abbia avuto delle oscillazioni non ha nulla a che vedere con la disponibilità del petrolio, che è sempre stata la stessa, ma è soltanto una scelta di natura politica nella quale non possiamo addentrarci. Quello che però sì è evidente dal nostro punto di vista è che il sistema fordista presenta due punti di debolezza che appaiono molto forti nel corso proprio della decade degli anni 70. Il primo è che la creazione di una grande concentrazione di forze di manodopera industriale crea automaticamente, potenzialmente, delle sacche politiche difficilmente gestibili. Come voi sapete, tanto per fare un rapidissimo esempio riferito al caso italiano, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quindi con il ricostituirsi dei partiti politici dopo la fine del fascismo, il Partito Comunista ha per circa un quarto di secolo, diciamo fino alla fine degli anni 60, sostanzialmente raccolto in larga misura, anche se in modo non assolutamente non univo, comunque il voto dei proletariati urbani, degli operai, di una certa fascia di popolazione legata al mondo del. Ma a partire dalla fine degli anni 60 e nel corso del decennio successivo, all'interno di quella fase che viene detta di contestazione, questo voto non è più appannaggio del Partito Comunista italiano, spagnolo quando vi sarà alla fine degli anni 70, francese e così via, ma si diversifica verso più forme di espressione politica. Per la prima volta questo voto dell'industriale non è concentrato e canalizzato in una serie di, diciamo così, contenitori facilmente individuabili e manovrabili. Il secondo aspetto è quello invece proprio legato alla natura della produzione. La produzione fordista è una produzione che si presenta per la prima volta obsoleta, nel senso che si presenta come una produzione che non riesce più a stare rapidamente dietro alla variazione dei gusti dei consumatori. I consumatori sono stati fino a un certo punto inermi e sono poi diventati facilmente preda dei mezzi di comunicazione, ma laddove i mezzi di comunicazione seguono la produzione non vi è conflitto, ma ogni qualvolta i mezzi di comunicazione, forse in Italia ne sappiamo qualcosa, sono orientati verso il raggiungimento di determinati obiettivi, questo fa sì che questi obiettivi possano essere coincidenti oppure conflittuali con quelli della produzione. Ora, questi due elementi, l'instabilità dell'operaio inteso come elettore all'interno dei sistemi di democrazia di mercato e dell'operaio come consumatore all'interno del sistema di produzione di massa, fa sì che all'inizio degli anni 80 inizierà quel processo che ci porterà appunto, e qui dedicherò quest'ultimo quarto d'ora, alle società post-fordiste. Qual è la data di inizio di questo processo? Ovviamente con tutti i fenomeni sociali, economico-sociali, storici, non è possibile individuare una data ben precisa, anche se io penso che questa si possa facilmente far coincidere con un cambio politico importante che si verifica al vertice di due, forse delle due principali democrazie occidentali, Stati Uniti e Inghilterra, tra la metà del 1979 e la fine del 1980. Mi riferisco ovviamente alla elezione in Inghilterra di Margaret Thatcher, primo ministro Tory conservatore che pone fine a una lunga serie di governi laburisti, e all'elezione di Ronald Reagan alla fine del 1980 che pone fine alla presidenza Carter. Ora, nel corso degli anni 80 sino al principio degli anni 90 i governi conservatori di Margaret Thatcher fino al 1990 e poi di Major in Inghilterra, le amministrazioni repubblicane di Ronald Reagan e poi di Bush padre negli Stati Uniti, segneranno in questi due paesi l'avvio di un processo di ristrutturazione o destrutturazione più precisamente produttiva, che segnerà il passaggio dal fordismo al post-fordismo. E qui arrivo al punto con cui iniziavo, dicendo che il passaggio dal fordismo al post-fordismo, secondo me, non è un effetto, diciamo così, di tecnologie, come può essere l'introduzione della catena di montaggio per la nascita del fordismo, ma vi sono delle scelte politico-economiche e politico-sociali molto chiare alla base. Che tipo di interventi vengono fatti nelle società inglesi e statunitensi a partire da questo torno di tempo, diciamo dalla fine degli anni Ottanta, tenendo presente, ripeto, che in realtà Stati Uniti e Inghilterra sono stati soltanto la locomotiva che poi ha trascinato appresso, indifferentemente da parte di governi di destra, di sinistra, di centro, tutti gli altri paesi europei. Il primo aspetto è certamente quello della cosiddetta destrutturazione del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro si era strutturato tradizionalmente, abbiamo detto, intorno alla fabbrica fordista e alle, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e alle rappresentanze del lavoro incarnate dai grandi sindacati. Ora, tanto negli Stati Uniti come in Inghilterra, il potere politico disconosce il ruolo di rappresentazione dei sindacati rispetto agli interessi dei lavoratori, in questo andando anche in, diciamo, a recepire un diffuso senso di insoddisfazione da parte dei lavoratori nelle rappresentanze sindacali. I lavoratori non si sentivano ben rappresentati dai sindacati, parlando in termini molto generali, ma allo stesso tempo il potere politico delegittima in tutte le circostanze possibili i sindacati come rappresentanti del lavoro nelle varie fasi, diciamo, di tavolo di contrattazione. Questo processo, come ben sapete, ha fatto sì che rispetto al grande potere che avevano i sindacati ancora alla fine degli anni 70, al principio degli anni 80, è arrivato adesso, elemento comune praticamente in tutti i paesi occidentali, a far sì che i sindacati abbiano un potere molto molto modesto, a volte numericamente forte, ma nella fase contrattuale praticamente inesistente, e ne abbiamo infiniti esempi sotto gli occhi. Secondo aspetto, lo Stato aveva, durante il periodo postbellico, assunto su di sé una certa quota di attività produttive, che andavano dall'idea che le ferrovie o la distribuzione del gas e dell'elettricità dovessero essere assolte dallo Stato per avere delle finalità di tipo sociale, portare ad esempio il gas anche laddove altrimenti affidato al mercato non sarebbe arrivato, ovvero il fatto di arrivare a gestire direttamente delle parti dell'apparato produttivo come forme di sostegno all'occupazione. Il secondo punto sul quale le scelte politiche realizzate in questi anni 80 e poi negli anni 90 saranno molto netto è questo totale ritiro da parte dello Stato di queste forme di presenza e la restituzione al mercato, come è stato detto, di queste funzioni nel nome di una maggiore efficienza. Terzo aspetto fondamentale: si avvia un processo di decentramento produttivo che fa sì che i grandi concentrati di attività produttive vengano via via frammentati sul territorio e a volte allontanati. Per fare un esempio più famoso, Detroit, la famosa capitale dell'automobile degli Stati Uniti, ha all'inizio degli anni 80 5 milioni di abitanti, dei quali 4 milioni lavorano nell'ambito dell'industria automobilistica. Attualmente Detroit ha meno di 1 milione di abitanti e l'industria automobilistica è praticamente scomparsa, che non vuol dire che non si producono più auto, ma le auto non si producono più in grandi concentrati, in grandi apparati produttivi, ma questi sono stati frammentati nello spazio, dove in Malesia, in Indonesia, in Messico, in Sudafrica, in Russia, cioè la produzione non è più effetto di una grande concentrazione, ma di una diffusione sul territorio, dove questa diffusione sul territorio ha anche l'effetto evidentemente di far sì che non esistano più grandi aggregati di operai che possono esprimere comunque delle forme di pressione politica. 4 milioni di persone su una città di 5 milioni evidentemente sono una forza schiacciante, non solo, tenendo presente che il decentramento produttivo dei paesi occidentali è stato verso paesi non occidentali, cioè paesi nei quali la rappresentanza del lavoro è molto debole o addirittura assente, come è il caso della Cina. Ultimo elemento che li racchiude tutti quanti, no scusate, non ultimo, penultimo elemento che racchiude tutti questi elementi. La fabbrica cambia. E questo sì è effettivamente un effetto dello sviluppo tecnologico. Se la grande rivoluzione che vi era stata nel corso del dopoguerra era stata quella della meccanica e dell'elettronica, la rivoluzione nella fabbrica che si compie dalla fine degli anni 70 e soprattutto nel corso degli ultimi tre decenni, evidentemente è quello dell'elettronica, ovvero della informatizzazione, dell'utilizzo sempre più frequente della robotica meccanica, dell'informatizzazione applicata ai cicli produttivi, che fa sì che sempre più parti del lavoro possano essere affidate a macchine che fanno da sé. Questo ha un'evidente ricaduta ai fini del nostro discorso, che è quella di avere sempre meno bisogno di manodopera, e questa minor manodopera, a parte pochi, diciamo così, operai d'élite che sanno gestire macchine di alta sofisticazione, questa manodopera sarà una manodopera sempre meno qualificata e sempre più destinata a dei ruoli ancillari allo sviluppo della produzione, che sono dei ruoli che non richiedono particolare preparazione. Sono dei ruoli legati ad esempio al trasporto, all'approvvigionamento delle materie prime e così via. E infine, ultimo elemento, e poi riprenderemo tutti questi elementi e concluderò appunto descrivendo le condizioni di lavoro del mondo post-fordista, ultimo elemento è quello del cambiamento dei rapporti di lavoro. Che cosa significa che cambiano i rapporti di lavoro? Nel caso italiano, che è un caso che ha delle peculiarità, ma che per certi aspetti poi rispecchia anche un andamento più generale, nel corso degli anni 90 e fino ad adesso, governi di tutti gli orientamenti hanno sostanzialmente proposto un patto, io definisco scellerato, tra generazioni, dove, contrariamente a un patto di solidarietà, come è stato in determinati altri momenti anche della storia recente, ha teso a salvaguardare determinate condizioni di lavoro definite privilegiate, ma che sono semplicemente normali, cioè condizioni di lavoro di tutela, di indeterminatezza del contratto, di forme di assistenza sociale e così via, per le categorie che queste condizioni le avevano già acquisite. È come se qualcuno viene a dire: senti, ma ti dà fastidio che tagliamo gli alberi nel giardino del tuo vicino? Dice: no, tagliate i miei. No, no, tagliamo solo i suoi. Ma non importa nulla. Io vengo, qualcuno viene a dire: senti, ma a te importa se a chi assumeremo dopo di te non diamo le stesse tue condizioni di lavoro? Dice: no, ma che me ne importa io? O sono particolarmente sensibile a una condizione sociale, ma io mi chiudo, mi arrocco nella difesa della mia posizione, cioè a condizione che non si tocchi la mia condizione di lavoro, fate quello che vi pare. Le leggi che sono state introdotte, ripeto, per fare, diciamo, per brevità di tempo riferimento al caso italiano, ma la cosa è analoga nella maggior parte dei paesi occidentali, hanno fatto sì che si sia creata una chiara linea di demarcazione tra coloro i quali hanno acquisito determinate condizioni di lavoro nel tempo E chi è entrato nel mondo del lavoro da un certo momento in poi, a queste condizioni non ha più avuto diritto. Vi prego di osservare che questo modo di procedere è, diciamo, diabolico, mi si permetta l'espressione, perché se io riformo il mercato di lavoro e dico da questo momento in poi per tutti cambiano le condizioni, questo provoca un risentimento. Se io invece spacco il mondo del lavoro e creo un conflitto laddove questo conflitto non c'era, tra chi ha una posizione e chi a questa posizione non accede, non solo non ho una reazione frontale, ma, come i capponi di Renzo, creo nei miei interlocutori un conflitto interno, che è un conflitto che non ha me come diretto, diciamo così, interlocutore antagonista. Qual è la somma di tutti questi sei elementi che sono andato ricordando? Cioè la progressiva trasformazione del ruolo dello Stato, il depotenziamento dei sindacati, il cambiamento delle condizioni di lavoro, la trasformazione all'interno delle fabbriche, eccetera, eccetera, eccetera. È quello che noi chiamiamo il post-fordismo. Perché? Che connessione c'è tra queste due cose? Innanzitutto, il fordismo nasce, come abbiamo detto, dalla creazione di questa figura di uomo-macchina che attraverso la catena di montaggio applica il suo lavoro al manufatto industriale che passa. Nel post-fordismo l'uomo-macchina molto spesso non c'è più, perché c'è soltanto la macchina-macchina. L'uomo non ci sta. Il lavoro umano non scompare, ma passa automaticamente a dei ruoli tendenzialmente molto poco specializzati. Complementari al processo, ma per i quali io posso cacciare via un lavoratore e prendere un altro, perché trattandosi di un lavoro non qualificato, questo posso farlo. Se io invece ho bisogno di qualcuno che sappia utilizzare quella determinata macchina, prima di cacciarlo ci devo ben pensare. Quindi la rarefazione del lavoro. Secondo elemento, il principio cosiddetto della flessibilità, termine ambiguo quant'altro non mai, è in realtà molto più vicino a essere descritto con l'espressione di precariato. Poiché il lavoro è tendenzialmente un lavoro non specializzato, io ho tutto l'interesse ad avere un continuo ricambio, come usa dire inglese, turnover, di lavoratori, nessuno dei quali resterà mai in una posizione il tempo sufficiente o per consolidare un proprio ruolo, ovvero per poter costituire un blocco di interessi tali da poter condizionare la committenza del lavoro. Aggiungiamo un'altra cosa. In questo sistema in cui il lavoro fisso non c'è più, né nel senso fisico del termine, né nel senso appunto di lavoro indeterminato, e vi è più generazione dopo generazione, anno dopo anno, si ingrossa questo lavoro, questo esercito di lavoro precario, la conseguenza è che vi è un graduale processo, graduale ma rapido, di polarizzazione della società. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi rappresentiamo come una forbice le società occidentali dopo la seconda guerra mondiale, in cui abbiamo, diciamo, i redditi più alti e i redditi più bassi come appunto i due bracci della forbice, possiamo dire che dalla seconda guerra mondiale fino alla fine degli anni 60, ancora negli anni 70, questi due bracci tendono a chiudersi. Ma nel momento in cui si mette in moto un sistema di continuo ricambio dell'applicazione del lavoro e di lavoro per larghissima percentuale non specializzato, ecco qui che fatalmente questo divario tende a crescere. Un amico che lavora per un centro studi della Banca d'Italia ha fatto una ricerca sulle condizioni di lavoro di una regione italiana, il Friuli Venezia Giulia, prendendo una coorte, come si dice negli studi demografici, cioè una generazione di persone che entrano nel mondo del lavoro in un determinato momento e facendo un lavoro molto molto intenso attraverso gli ispettorati del lavoro e attraverso altre fonti statistiche, ha seguito la storia di queste persone per 5 anni, dal 2003 al 2008. È venuto fuori che di questa coorte di giovani che entrano nel mondo del lavoro intorno ai 18-20 anni, si ha una percentuale numericamente ridotta, intorno a un quarto, che stabilizza la propria posizione nei primi 12-24 mesi. Per la maggioranza degli altri, stiamo parlando di una quota che va tra il 66 e il 75%, si ha invece un continuo cambiare di lavoro che arriva in alcuni casi anche a persone che nell'ambito di questo arco temporale, considerato di 5 anni, hanno cambiato lavoro anche 40 volte. E hanno cambiato anche lavoro 40 volte, restando però all'interno sempre di uno stesso tipo di lavori. Lavori di call center, lavori di consegna di alimentari a domicilio, lavori di magazziniere e così via. Cioè manca completamente quell'elemento che era stato invece tipico delle società industriali, della formazione, per cui io entravo nella fabbrica come garzone, come apprendista e potevo, muovendomi all'interno di un percorso comunque previsto, crescere, a far aumentare il mio capitale umano e costruire un ruolo diverso. Allora il punto di arrivo di questa veramente forse troppo rapida sintesi del processo che porta al post-fordismo è che la condizione del lavoro nel post-fordismo è la condizione non di precarietà ma di caducità, nel senso che ogni livello che si raggiunge in realtà prevede al suo interno quasi inevitabilmente un meccanismo di caduta che riporta al punto di partenza, una specie di gioco dell'oca all'infinito. E per questo io critico quella impostazione, pur utile come elemento di dibattito, che vi leggevo all'inizio del mio intervento. Ecco, se ci sono delle cose che temo, ahimè, per necessità di sintesi, di aver lasciato veramente troppo, troppo in ombra, magari le riprendiamo in sede di dibattito. Grazie. Grazie. Allora, passiamo la parola alle diversamente occupate, che qui tra noi abbiamo Angela Lamboglia, Teresa Di Martino, Claudia Bruno, Federica Castelli e Antonella Bonauro. E la loro impostazione, per cui appunto sono state chiamate qui con noi, insomma, due parole, vogliamo sapere oggi il pensiero della differenza sessuale come si pone su un tema così tanto caldo, come appunto abbiamo visto anche adesso, che è il lavoro. Prego. Io faccio una brevissima introduzione per dirvi come è nato il gruppo Diversamente Occupate legato all'URBWF in cui presentiamo. E, dunque, dico solo che un percorso è nato circa 2 anni fa, quando la redazione di URBWF ha pensato di proporre a un gruppo di giovani donne di confrontarsi, quindi in un dialogo intergenerazionale a proposito di tematiche che riguardassero il nostro quotidiano, per avere un confronto tra donne di generazione precedente e nuove donne, quindi la rappresentazione anche reciproca. E da questo dialogo emerse appunto con grandissima prepotenza, diciamo, la tematica del lavoro. Il lavoro che si proponeva a noi sostanzialmente come questo nucleo forte che sembrava determinare le nostre esistenze, quindi il ragionamento che doveva probabilmente partire e incentrarsi intorno alle negoziazioni tra talento, desiderio, relazioni, e sembrava diventare un discorso che aveva come nucleo lavoro e come eventi satellitari tutti quegli altri dove è stato. Allora di qui è partito un nuovo diversamente occupate, perché di fatto ci siamo resi conto che il lavoro era per noi il grande assente, oppure questa condizione frammentata che conoscevamo, precario, di caducità, come abbiamo sentito adesso, e appunto nella lezione che abbiamo seguito ora ritrovo l'esperienza che ci siamo raccontate a partire dall'esperienza personale. Per noi si ponevano sostanzialmente un paio di problemi cardine, io credo. Uno identitario sembrava proprio, cioè come definire noi stesse se siamo cresciute credendo di identificarci con il lavoro che svolgevamo, che avremmo dovuto svolgere, se invece poi questo lavoro al singolare non lo incontravamo, non riuscivamo ad incontrarlo. E in secondo luogo l'impossibilità, questa caducità, questa frammentarietà, l'impossibilità di progettare, immaginare il futuro, perché la precarietà è anche sinonimo di una delocalizzazione, di una specie di prospettiva ma anche un po' nomadica dal punto di vista spaziale, per esempio. Quindi tutte le ripercussioni che questo aveva sul quotidiano e anche su probabilmente la possibilità di crescere e formarci. Allora, prima di passare la parola, vi dico che quindi dal numero di DQF che vedete qui, Diversamente Occupate, è nato allora un blog, perché il discorso sul lavoro si presenta come un discorso aperto che si alimenta della nostra esperienza man mano che si va formando. E quindi adesso passo la parola più a Teresa, che vi dà un saggio delle nostre riflessioni, ma anche delle nostre esperienze. Sì, ciao a tutti. Io pensavo di leggervi inizialmente il curriculum collettivo che trovate nella rivista, che è un po' una sintesi di tutto quello che siamo noi, Diversamente Occupate, ma fondamentalmente di quello che siamo state prima di incontrarci, e che penso possa essere anche uno specchio di molte di voi e molti di voi. Allora, nomi: Angela, Antonella, Claudia, Eleonora, Federica, Teresa. Eleonora è l'unica che manca oggi. Nate a: da Roma in giù, pendolari e fuori sede. Nate il: nella prima metà degli anni 80, troppo tardi per vivere la politica degli anni 70, troppo tardi per la contestazione, tardi per i partiti, i sindacati, i collettivi. In tempo per incontrare donne che fanno politica per le donne. Stato civile, tutte in stato libero e una sposanda, che è Eleonora, qui non c'è. Studi umanistici, comunicazione, filosofia, danza. Tutte figlie della riforma del 3 più 2, laureate in filosofia politica, una in teoria del cinema. Ciascuna ha studiato per il piacere di farlo, per curiosità, per passione. Nessuna credeva nell'equazione studio uguale preparazione al lavoro. Mentre altri spulciavano le guide all'università valutando i diversi sbocchi professionali, noi cercavamo di interpretare quali meravigliosi contenuti si celassero dietro i titoli dei moduli di didattica. Aspettative spesso disattese. Il piacere maggiore è venuto da quello che non ci aspettavamo. Per tutte, il pensiero delle donne. Competenze acquisite. Disciplina, sindrome della formichina operosa. Capacità di improvvisazione orale, gestione del tempo, strategie di sopravvivenza settimanale con 50.000 lire e 50 euro nel portafogli, abilità nel destreggiarsi tra le profile burocratiche, alta densità creativa nella riorganizzazione del presente, reimmaginazione del futuro, rielaborazione del passato, ottimizzazione dello spazio in valigia, fisica e metaforica, resistenza al nozionismo, capacità di sfuggire alle etichette e alle riduzioni all'uno, scoperta del valore del nomadismo dei saperi. Non è davvero oro tutto quello che luccica. Esperienze lavorative. Ripetizioni a domicilio, PR in discoteca, commessa, insegnante di pianoforte per bambini, operatrice call center, dialoghista, banconista pane e derivati, promotrice di vacanze studio, volantinatrice, animatrice per bambini, segretaria di seggio, bagnina, stagista, volontaria servizio civile, fotografa teatrale, cameriera, babysitter, giornalista, impiegata, operatrice di sportello, sostituta di direttore in vacanza, assistente di filiale, istruttrice di nuoto, assistente di direzione, responsabile di sala, segretaria, barista, insegnante di italiano per stranieri, operatrice video, critica gastronomica, assistente bibliotecaria, correttrice di bozze, addetta stampa, borsista. Sono sicure di aver fatto anche altro, ma non ricordano cosa. Posizione lavorativa attuale: web editor, dottoranda, direttrice periodico online, traduttrice, laureanda, blogger, giornalista, redattrice. Competenze acquisite. Capacità di riconoscere il confine, potrebbe essere il mio lavoro, non lo farei neanche morta. Capacità di leggere tra le righe degli annunci di lavoro e delle domande sessiste dei selezionatori. Abilità performativa nel convincere l'interlocutore che questo lavoro è il sogno della mia vita. Capacità di reinventare un lavoro morto e sepolto. Capacità di fare la domanda giusta nel momento giusto alla persona giusta. Capacità di fare la domanda sbagliata alla persona sbagliata nel momento sbagliato e divertirsi per questo. Conoscenza dettagliata dei vicoli del centro storico di Roma. Resistenza di camminata sulle lunghe distanze anche in condizioni climatiche avverse. Esperienze non lavorative. Tutte le attività che portiamo avanti insieme ad altre donne, non per soldi, non per carriera, ma per bisogno, desiderio e responsabilità politica. Quel che fa la differenza, riuscire ad acquisire entro domani le competenze che ho detto di avere ieri, una certa irresponsabilità nel riconoscere gli errori di mira e aggiustare il tiro, destreggiarci tra le diverse dimensioni dell'esistenza, mettersi in discussione con un sorriso, essere radicalmente curiose. Possiamo portare a termine un lavoro costi quel che costi, gestire più attività lavorative contemporaneamente, dimenticare di avere un corpo da curare e ascoltare, entusiasmarci per progetti che non sono nostri. Possiamo, ma non vogliamo farlo. Dicono di noi: tu sei intelligente, non ti basta mai, ma quando la smetti di comportarti come un cartone animato? Questo è Federico. Si vede che tu sei di un'altra stoffa. Io ogni tanto vorrei farmi una passeggiata nel tuo mondo. Sito internet diversamenteoccupate.blogspot.com. Questo è per, anche con un linguaggio un po' simpatico, raccontarvi quello che siamo state e quello che siamo tuttora. Però io ci tenevo anche a dirvi come è iniziata un po' la riflessione sul lavoro e su quello che poi è andato a costituire il numero. Io, quando abbiamo deciso di fare questo numero sul lavoro, e l'idea è, lo dico, l'idea è venuta anche un po' da me perché ho fatto una tesi sulla femminilizzazione del lavoro, quando abbiamo deciso di fare questo numero ho preso in mano questo numero di TVF che è del 94, Storie di lavoro, quindi 16 anni fa, e sono andata a rileggerlo. E la prima cosa che mi ha colpito è stata la domanda che due redattrici, Biondi e Masi, rivolgevano alle loro interlocutrici, e che era: quale posto occupa il lavoro nelle proprie strategie di vita? E mi ha colpito perché è la stessa domanda che ci siamo poste noi, no? Dopo 16 anni nei nostri incontri. Continuando a leggere mi sono fermata su questa frase, ve la voglio leggere. Quello che ci piacerebbe capire è se la maggiore consapevolezza di sé e della geografia dei propri bisogni profondi ci abbia insegnato a muoverci con agio nella realtà del mercato e della professione. Qua mi fermo perché il con agio nella mia testa stona. Stona perché penso che nessuna di noi oggi si muova con agio nella realtà del mercato e della professione. E questo è dimostrato dal fatto che ogni volta che ci siamo ritrovate a parlare del lavoro, e ci ritroviamo tuttora a parlare di lavoro, ne viene fuori un modello che è invasivo ed invadente, e che a prescindere dall'occupazione, dalla disoccupazione come dalla precarietà, ci mette in continuazione di fronte a una lotta tra noi e i nostri desideri, una lotta che spesso consuma tutte le nostre energie e ci allontana dal nostro desiderio, perché è proprio nel lavoro che ci siamo rese conto che si misura il nostro desiderio, perché ad ogni colloquio, ad ogni proposta di lavoro, ad ogni scadenza di contratto, c'è sempre un ridimensionamento del nostro desiderio, no? Penso che ognuno di voi è partito con un'idea e poi piano piano si è sempre sentito costretto, tra virgolette, ad abbandonarlo, o comunque ad allontanarsi da quell'idea. E se nel 94, quando è uscito questo numero di TVF, si poteva ancora pensare al lavoro come a un dono, così lo definivano, un dono per il quale spendere energie gratuite molto superiori a quelle che ci sono remunerate, e pensiamo appunto che nel 94 si iniziava a parlare di femminilizzazione del lavoro, Oggi che comunque spendiamo energie molto superiori a quelle che ci sono richieste nel mercato del lavoro e lo facciamo perché è il nostro modo di lavorare e non potremmo farlo altrimenti, non mi viene in mente l'immagine del dono quando penso a questo, ma mi viene in mente un'altra immagine che è quella della trappola. Una trappola che il mercato capitalistico ci ha teso e dentro cui siamo cadute tutte, e è una trappola perché il mercato ci ha colto noi, donne, il nostro modo di fare produzione e si è soprattutto impossessato della teorizzazione femminile dell'impossibilità di separare tempo di vita e tempo di lavoro e ci ha riconsegnato un modello lavorativo che invade la nostra vita, i nostri spazi, i nostri tempi e oltretutto ci racconta anche la favola della flessibilità come un'occasione di libertà delle donne. È quella che Cristina Borderías, che è una storica spagnola, di cui trovate un'intervista nel testo, lei la definisce la tirannia della disponibilità permanente delle donne. E oggi non parliamo più di strategie femminili come potevano parlare nel 94 da attuare nel mercato, si tratta piuttosto di strategie di presa sulla realtà, di radicamento al qui e ora, al presente, e questo esce fuori, e lo trovate sempre nella rivista, da un'intervista che ho fatto alla sociologa Carmen Leccardi, che parla di strategia del presente esteso, lei la chiama così, una strategia del presente esteso che è quella che adottano le giovani donne, ma questo è esteso anche ai giovani uomini, per fronteggiare i tempi di oggi, i tempi del presente, dei ritmi che ci impediscono qualsiasi forma di controllo, ma non soltanto sul presente, soprattutto, e qui poi lascio la parola a Claudia, soprattutto in relazione al futuro che diventa una sfera quanto mai nebulosa e, come vi dirà Claudia, schizofrenica. E infatti una delle cose che è emersa, diciamo, maggiori dal confronto con le donne nate prima di noi è stata proprio, e con il loro rapporto tra vita e lavoro, è stata proprio questa, cioè che una delle cose principali che cambia tra generazioni è l'immaginario del futuro. Perché noi non immaginiamo più un futuro, ma immaginiamo i futuri, quindi tutti possibili, tutti allo stesso modo incerti, però non così credibili da meritare la messa in gioco totale della nostra progettualità. Tanto che forse non è poi così corretto chiamarli futuri ancora. Quindi questo passaggio che abbiamo riscontrato tra generazioni è un passaggio che va dalla progettazione dei percorsi di vita a lungo termine alla totale flessibilità delle esistenze e della percezione di queste esistenze. Questa svolta, invece di essere una liberazione, per noi che tutte comunque non abbiamo mai pensato di restare incasellate nel progetto unico di vita, quindi non era quello che richiedevamo, mentre magari per molte delle nostre madri, arrivate a un certo punto del loro percorso biografico, si sentivano comunque coinvolte e avevano la possibilità di investire tutte le energie per la realizzazione del loro destino, della strada giusta. Per noi questo passaggio ha costituito una ulteriore trappola per l'espressività e per la realizzazione di sé. Quindi in altre parole il futuro è diventato un concetto così astratto, contaminato, che non abbiamo più saputo come caricarci sopra delle aspettative. E questo non solo per quanto riguarda il lavoro, quindi impossibilità di dare una continuità e una crescita costante alla professione o al reddito, ma anche per quanto riguarda le nostre aspettative di vita, quindi le relazioni, le convivenze, i luoghi in cui ci immaginavamo. Diciamo, nelle nostre prospettive immaginate è proprio la continuità che viene a mancare. E questa la trappola di cui parlava Teresa prima, che è uno spezzettamento anche delle nostre energie su più binari, che da una parte può essere considerato una forza perché comunque c'è un'eccedenza rispetto al convogliare tutte le energie su un progetto unico, dall'altra però è una debolezza perché ci rende vulnerabili, come dice la stessa Leccardi nell'intervista che ritrovate nel numero di DWF. Quindi praticamente quello che noi siamo chiamati a fare quotidianamente è inventarci di continuo delle strategie di sopravvivenza a questa entropia in cui siamo immerse. cosa è cambiato praticamente? Quella discontinuità biografica che per le donne venute prima poteva costituire un giro largo, diciamo, necessario prima di raggiungere la propria meta, noi la viviamo invece anche come un probabile punto di arrivo. Quindi al giro largo, al cosiddetto giro largo, si sostituisce la moltiplicazione dei progetti a partire dai contratti di lavoro, che non sono soltanto successivi l'uno all'altro, ma anche concomitanti. Quindi molto spesso le nostre giornate vengono ad assumere le sembianze di un puzzle di progetti incoerenti che noi cerchiamo di tenere insieme comunque. E quindi torniamo al concetto di presente esteso, quindi non immaginiamo il futuro, ma ci troviamo a vivere in una dimensione di presente che è un'estensione del presente. Su questa estensione si ripiega il nostro immaginario e il cerchio di senso in cui ci troviamo a vivere si chiude, costituendo una prigione non solo per i nostri desideri, ma anche per le esigenze dei nostri corpi. In particolare rispetto, diciamo, la nostra posizione parte anche prendendo le distanze da un manifesto che è stato pubblicato invece dalla Libreria delle Donne di Milano, che è un altro gruppo di riflessione, sempre di prospettiva di genere, sulle tematiche del lavoro, che si chiude comunque sull'invito a immaginare un futuro migliore, riconoscendo già nel gesto dell'immaginazione un gesto politico, quindi già una pratica in questo. Noi prendiamo le distanze, diciamo, da questo tipo di approccio perché secondo noi le pratiche politiche sono altre. Non ci basta il desiderio di immaginare un futuro che sia migliore di quello che invece noi non immaginiamo, comunque del quale abbiamo una percezione schizofrenica, ma ci ritroviamo a desiderare prima ancora delle pratiche politiche che ci permettano di partire da noi e di metterci in relazione. Queste pratiche non ci sono. Quindi, diciamo, adesso Federica vi illustrerà le domande, diciamo, più a partire dalle quali abbiamo preso le mosse, diciamo, per articolare il senso che il lavoro ha nelle nostre vite. Sì, ecco, come è stato messo in luce da Claudia, ecco, prima da Antonella, nei nostri incontri c'era sempre una domanda che tornava, che era quella appunto sul lavoro, tant'è che anche uno dei pezzi che sta nella rivista si chiama Sì, ma è il lavoro, proprio perché era questa domanda che tornava sempre nei nostri discorsi anche in forma abbastanza martellante. Abbiamo deciso quindi di interrogarci sul perché di questo ritorno, di questa domanda, perché risultasse dirimente nelle nostre vite, e abbiamo cominciato ad analizzare questa questione proprio a partire da noi stesse. La prima cosa che abbiamo rilevato è che in realtà il lavoro posto come, cioè la domanda sul lavoro posta come binomio, lavoro o non lavoro, veniva ad essere di importanza fondamentale sia nel rapporto che usualmente sia nella società tra persone conoscenti e non, quindi è un modo di relazione. Basti pensare alla classica domanda per rompere il ghiaccio, che fai nella vita, sia nel, e oltre a questo è una domanda che molto spesso ci viene posta anche dai nostri progetti di vita, come viene, e dai nostri desideri, che sono sempre, devo continuamente fare i conti con questo binomio. Quindi in un primo momento abbiamo rilevato proprio come questo binomio strutturasse la relazione con gli altri, fornisse un codice di relazione con gli altri e nel frattempo rimandasse indietro una percezione, una rappresentazione di noi stesse che strutturava anche la nostra identità. E nonostante magari noi per prime non ci riconosciamo in un'identificazione del genere, penso che qui siamo tutti d'accordo nel pensare che ovviamente lo schiacciamento dell'essere di una persona, della sua complessità sul suo fare pratico nel mondo del lavoro, sulla sua posizione lavorativa, risulti essere un po' riduttivo rispetto alle sue aspettative, ai suoi desideri. E nonostante questo, nonostante i nostri tentativi nostre esperienze di vita di sfuggire a questa logica, e nonostante niente, la risposta provocatoria di Eleonore che oggi non c'è per sfuggire appunto a questa identificazione e a questo schiacciamento, la domanda sul lavoro e il tentativo di strutturazione dell'identità che ne conseguiva continuava a tornare. Riflettendoci meglio, ancora più a fondo, abbiamo però constatato come questa strutturazione, cioè questa identificazione che mi risultava, per quanto poi ho osteggiato in qualsiasi modo, fosse in realtà inattuale se confrontata con l'effettiva realtà del lavoro in cui ci trovavamo immerse. Perché ovviamente ad una domanda del genere, a cosa fai nella vita, che posizione lavorativa occupi, nella dimensione lavorativa attuale è impossibile dare una risposta univoca a questa domanda, o che sia comunque fedele alla realtà dei fatti, perché appunto ci troviamo in una realtà lavorativa completamente diversa, per esempio, a quella che si trovano davanti le donne di 10 anni fa, 20 anni fa, in cui comunque la situazione era molto meno destabilizzata. La realtà lavorativa alla quale ci siamo ritrovate, appunto, come diceva Teresa, quella di un lavoro invasivo, invadente, che ha imparato ad aspettarsi da noi quel di più che magari nel 94 riusciva a permettere alle donne che scrivono su DVF di debordare quella posizione lavorativa che la società assegnava loro, e quindi di sfruttare quel di più come una strategia di libertà che poi permetteva una reale esistenza, un reale desiderio, nonostante l'incasellamento in una realtà circoscritta nel mondo del lavoro. Per noi questo non è possibile, perché una delle prime cose che abbiamo rilevato nel confronto col mondo del lavoro è che dopo la femminilizzazione del lavoro, il mondo del lavoro ha imparato ad aspettarsi da noi già quel di più, è già contemplato. Parlando tra di noi è uscita fuori la cosa, la riflessione in cui praticamente risulta evidente come la nostra stessa soggettività inglobata tutta, anche in quel di più che deborda, sembrerebbe alcune volte, viene trasformata in una nuova variabile di produzione, come ai tempi della rivoluzione industriale, della rivoluzione tecnica, era stato c'era stato appunto nuove fonti di energia per un nuovo aumento di produzione. E la cosa più immediata che ci è venuta da pensare è stata che in questo modo c'è una sorta di parallelismo anche molto veritiero che porta le nostre identità a nuove fonti di energia per un tipo di lavoro che riesce ad appropriarsi di ogni dimensione, apparentemente ogni dimensione di più che deborda, la nostra identificazione con dei pezzi di carbone, ossia nuove energie, però svilimento di quello che in realtà è la nostra identità, che è appunto solo un materiale produttivo. E in questo senso il fatto che la vita si sia così saldata al processo lavorativo non ha portato per noi una possibilità ulteriore di emancipazione, come poteva sembrare più di 10 anni fa. E in realtà si è trasformato per noi in un meccanismo soffocante, in una trappola in cui quell'io concreto, anziché trovare nuova libertà dall'aderenza del lavoro a quella vita, alla vita concreta, in realtà viene a soffocare. E così con esso i desideri e le nostre aspettative, appunto il discorso della progettualità che faceva Claudia nel tempo come puzzle o come Lego, anche volendo tutti a blocchi. E questa la conseguenza diretta appunto è che la nostra identità stessa ne risulta da un lato compromessa e d'altra parte sempre alla prova, cioè sempre coinvolta in tentativi di rinegoziazione e di reinvenzione del proprio senso e delle proprie strategie di libertà. A partire da questa riflessione è nato poi un discorso molto ampio e molto profondo che appunto illustrerà Angela su come in realtà questo senso e su come il lavoro ti rapporti a questa dimensione della invenzione del senso e vai. Sì, allora riprendo il discorso di Federica, e forse alcuni chiarimenti, nel senso è evidente probabilmente dagli interventi che la nostra esperienza è molto condizionata dal tipo di lavoro che ci troviamo a svolgere, cioè il fatto che si tratti di un lavoro cognitivo non è indifferente sicuramente per il tipo di riflessione e anche il continuo riferimento al portare sempre un qualcosa di più rispetto al puro svolgimento di una mansione. E quando parliamo ad esempio di questo lavoro come qualcosa di invadente, al di là del fatto, insomma, che appare chiaramente a tutti, cioè il fatto che il lavoro, la sua presenza, la sua assenza, la sua precarietà condizionano tutti gli altri ambiti della vita, che ci sembrano in questo contesto quasi ricavati per residuo, nel senso che sono strutturati dalle condizioni lavorative. In realtà noi abbiamo, diciamo, riconosciuto un investimento nel lavoro che da una parte sì ci viene richiesto, dall'altra siamo noi stessi a portare, cioè è un potenziamento del ruolo del lavoro che noi abbiamo letto anche come motivato dalla carenza di altri spazi dell'agire pubblico e dell'agire politico, cioè noi cerchiamo nel lavoro un'occasione per metterci alla prova, per la realizzazione, per l'espressione, per il riconoscimento e questo porta ad assumere un atteggiamento che qualcuno ha definito etico verso il lavoro, cioè molto centrato su un senso di responsabilità, di condivisione dell'obiettivo, di mettere in gioco una serie di competenze relazionali e non meramente delle conoscenze, delle tecniche. Un atteggiamento che è richiesto sempre più esplicitamente dalle aziende, tant'è che ormai si legge negli annunci di lavoro, capacità relazionali, capacità di problem solving, team working, eccetera, eccetera. E dall'altra però siamo noi stessi a riconoscere, a dare credito a questa rappresentazione del lavoro, un lavoro che diventa sempre più non tanto un mezzo per altri scopi, ma un'attività con un senso per la vita. E si combina poi al discorso che Federica anche stava appunto facendo sul il lavoro come strumento per la rappresentazione di se stessi, per l'identità, per acquisire uno status nei confronti di se stessi e degli altri. E questo da una parte spiega anche, secondo noi, il fatto che le donne siano, per alcuni lavori almeno, riconosciute come un bacino strategico per le imprese, e dall'altra però anche gli uomini, e soprattutto i giovani uomini, sperimentano questa sorta di fascinazione collettiva per cui si lavora per l'azienda, per raggiungere l'obiettivo dell'azienda, quindi si spende molto molto tempo non riconosciuto, molte energie non riconosciute per raggiungere questo obiettivo che mi darà autogratificazione che servirà appunto alla squadra, all'azienda. Ci siamo chiesti allora appunto come si combinano questa retorica aziendale di nuova generazione con invece la nostra spontanea tendenza a attribuire questo ruolo così invasivo al lavoro. E secondo noi da una parte c'entra sicuramente la vulnerabilità che sperimentiamo sul mercato del lavoro, perché essere distaccati nei confronti dell'obiettivo dell'azienda, mancare un'identificazione con l'azienda che ormai il mercato esige, significa in qualche modo rischiare di essere espulsi dal sistema, perché rifiutare di fare straordinari non retribuiti, di vivere per quell'obiettivo, significa essere poi più facilmente sostituibili da una parte. Dall'altra però ritorna l'idea, secondo noi, che ci giochiamo nel lavoro una domanda di senso che in altri ambiti invece non abbiamo occasione di realizzare, e che quindi la contrazione dello spazio pubblico e ripiegamento sulla dimensione privata faccia apparire molto spesso il lavoro come l'unico spazio pubblico disponibile, cioè come l'unico spazio in cui prendere parola, testare le proprie pratiche, la propria identità, il proprio talento e ottenere riconoscimento. E diciamo che il movimento è anche un po' reciproco. Cristina Morini, in un intervento contenuto nel numero, parla anche di come il portare al lavoro elementi quali la cooperazione, la socialità, la cura delle relazioni, eccetera, fa sì che poi questi elementi appunto disertino gli ambiti che sono loro propri e che quindi la concentrazione sulla responsabilità e sulla realizzazione individuale faccia sì che ancora meno si pensi ad un investimento su una dimensione collettiva. Allora quello che insomma rimane un po' come una serie di questioni aperte che poi insomma poniamo anche come temi di dibattito, che cosa ne è di tutto quell'investimento immateriale che noi portiamo al lavoro e che non viene riconosciuto e che potrebbe invece servire come motore di un confronto pubblico, di un confronto con gli altri. E possiamo mettere in atto delle strategie di libertà rispetto a questa rappresentazione del lavoro che però non passino come forme di automoderazione, perché molto spesso i nostri tentativi, raccontandoci un po' le nostre esperienze, di sottrarci a questa invadenza del lavoro o questa rappresentazione, rischiano di passare come degli esempi di automoderazione, quasi delle forme di autosabotaggio, cioè io rinuncio a un lavoro classico, standard, eccetera, eccetera, per avere spazio per me, per altri desideri, per altri ambiti di agire comune politico. E la mia scelta individuale risulta impotente e risulta sotto la forma di una rinuncia, non risulta sotto la forma di un maggiore potenziamento delle proprie energie, sulla forma di una scelta diciamo quasi direi vincente, per metterla sotto il linguaggio che va per la maggiore. E quindi come fare di queste strategie di libertà, come sottrarre quindi d'altra parte anche al lavoro il potere di attribuire un'identità che non è più in grado per i tempi di fornire e smascherare anche la sua capacità di esaurire la dimensione pubblica, perché per quanto rimanga molto spesso come ambito residuale di confronto con gli altri, come si diceva, il passaggio da una dimensione lavorativa ad un'altra permette soltanto delle alleanze tutt'al più temporanee con colleghi, con colleghe, ma nessuna forma di vera e propria, cioè non si possono creare delle reti chiaramente in questi contesti. E d'altra parte il lavoro comunque rimane, anche se è un luogo in cui si lavora con altri, un luogo in cui si lavora per fini individuali o per fini altrui, un luogo non di libertà ma un luogo etero diretto in qualche modo. E allo stesso tempo la domanda rimane: perché allora le relazioni non creano più lo spazio pubblico? Cioè perché in passato almeno abbiamo l'impressione che le relazioni fossero a monte, precedessero in qualche modo i luoghi, mentre noi molto spesso andiamo alla ricerca di luoghi in cui relazioni che abbiamo oppure che vorremmo avere acquistino peso e risonanza. Ecco, questo è il... Grazie. Allora direi che adesso possiamo lasciare ovviamente spazio alle domande e al dibattito. Avremo, gruppo Verlan ha un'idea, per evitare di creare ulteriori blocchi di discorsi che non creino poi un dialogo, vorremmo tentare una sorta di botta e risposta tra chi vuole fare una domanda e chi risponde, per cercare insomma se poi il discorso può prendere il largo anche di creare un vero e proprio dialogo diretto. Prego. Innanzitutto scusa per la figuraccia di prima, il cellulare, però la domanda è per senza Badini, se è possibile. Allora io sono un po' in ritardo, però mi sembra di aver colto i passaggi fondamentali del suo discorso. Ecco, io penso che rispetto al suo discorso, rispetto al passaggio dal fordismo al trasportismo, che senso ha ancora il discorso marziano sulla produzione di sul lavoro, sulla differenza tra sfera di circolazione e sfera della produzione? Sul ruolo della classe proletaria come classe rivoluzionaria. E poi collegato a questo, come va interpretato questo discorso anche da un punto di vista fattuale, di scioperi in fabbrica, insomma, di proteste degli operai che ancora esistono nella fabbrica italiana, oppure il sequestro di dirigenti in alcune fabbriche francesi? Una risposta, però proprio per questo immagino che debba essere sintetica. Che senso ha il discorso marxista rispetto a questa situazione? Se è ancora valido. Se è ancora valido. Volendo essere estremamente sintetico, io credo che si debba partire dal riconoscere che Marx è non volevo dire agli studenti prevalentemente di filosofia, un filosofo morale, filosofo che vede la realtà dell'industrializzazione europea fino alle soglie della seconda rivoluzione industriale, che di fatto però Marx non conosce. Cioè l'interpretazione di Marx è fortemente condizionata dal tipo di sviluppo industriale che egli conosce fino al sesto, settimo decennio dell'Ottocento. Perché non avendo conosciuto il fordismo, l'ipotesi che egli formula sulla evoluzione della società capitalistica insiste su un elemento che al contrario la realtà storica avrebbe smentito, che è quella dell'allungamento degli orari di lavoro. Marx dedica molta attenzione al fatto che la sua analisi, gli orari di lavoro si sarebbero andati ad accrescere nel tempo per una serie di motivi, adesso non abbiamo il tempo di vedere, e al contrario la realtà storica è stata diversa, poiché questo accorciarsi agli orari di lavoro non siano seguiti miglioramente le condizioni di vita degli operai è un altro discorso ancora. Allora io credo che il peggior servizio che si possa fare a Marx è quello di fargli interpretare una realtà che era al di fuori del proprio orizzonte storico-cognitivo, e al contrario il buon servizio che si può fare, diciamo la giustizia che si può rendere al pensiero marziano, è quello di aver colto alcune, e questo sì è vero, contraddizioni interne al processo di sviluppo del capitalismo. A questo si potrebbe aggiungere che non si fa anche un buon servizio a Marx quando si va a prendere la sua parte di analisi del passato preindustriale. Come ne sa, Marx, diciamo, cerca di ricondurre allo schema della lotta di classe la dinamica evolutiva della storia anche nei contesti preindustriali, e fa delle forti forzature. Ripeto, se invece lo si prende nel suo tempo e nel suo spazio, Marx ha colto perfettamente quelli che erano, diciamo così, tali che rodevano da dentro le società capitalistiche, e quelli li ha descritti bene, quindi si può, secondo me, assolutamente utilizzare di quell'analisi ciò che permette di capire come esistevano in germe già nella società europea, il capitalismo di metà Ottocento, quelle contraddizioni che sarebbero esplose, ancorché in un modo molto diverso da quello previsto da Marx, 30, 40, 60, 70 anni dopo. Non so se ho risposto nella prima parte della sua domanda. Molto interessante il punto che lei pone su come interpretare le forme di protesta attualmente in atto, e su questo mi vorrei permettere di allargare un attimo riprendendo degli spunti che erano presenti in modo diverso in tutti i vostri interventi, che in qualche modo è anche un po', mi permettete, come dire, la semplificazione, e ora che facciamo? Cioè, ebbene, adesso sarebbe, ho preso due pagine di appunti quello che avete detto, ma non ce n'è tempo, ma le forme di protesta che attraverso un mondo del lavoro attualmente si possono tendenzialmente ricondurre a due categorie, che lei ha individuato perfettamente, delle categorie tradizionali, lo sciopero, delle categorie buone o cattive, biasimevoli o invece encomiabili, come prendere in ostaggio il direttore di un'azienda. Ahimè, ricordiamoci che però ci sono delle altre forme di protesta che nel mondo, soprattutto del lavoro francese, sono terribili. Voi credo che sappiate questo atroce fenomeno di suicidi, sì, che attraversa la vita di imprese diversissime. Sì. Ma questo fenomeno di suicidi, attenzione che lo potremmo riportare, questo sarebbe un altro tema, insomma, fortissimamente anche un mondo completamente diverso rispetto alla Francia del postmodernismo, come è l'India rurale. Credo che voi sappiate che vi è un fenomeno che coinvolge, ahimè, decine di migliaia di contadini impoveriti ogni anno nell'India della trasformazione delle culture tradizionali nella monocultura, proprio per non rimanere al passo con le Indie. Allora, io penso che noi siamo in una fase, in tutti i sensi, ma per rimanere all'ambito circoscritto della sua domanda, di elaborazione di nuove strategie. Questo, per questo dico il che facciamo adesso. Queste nuove strategie sono, come tutti i fenomeni sociali, di continuità con il passato. La prima cosa che un lavoratore può fare, un detentore di lavoro, è smettere di lavorare per protestare. Ma è indubbio che questo non basta più. Non basta più perché appunto il sistema è fatto in modo tale che molto spesso è facile, sostituire il lavoro con altro lavoro laddove appunto questo costituisca un granello nell'ingranaggio. La mia posizione personale, qui appunto diciamo ferma la posizione, è che io rigetto qualsiasi forma di violenza e quindi penso che ogni forma di dimostrazione, anche molto eloquente, possa servire. Quindi bloccare anche un apparato produttivo fino al punto di impedire che il manager di una grande impresa esca, mi sta bene. Però lì c'è poi la frontiera dell'atto violento che io mai mi sentirei di passare. Allora vorrei prendere questi episodi che sono stati molto frequenti in Francia come un conato, cioè io credo che siamo in una fase di confusa ricerca, cioè per cui da gendum nuovo, e probabilmente questa ricerca confusa è appena all'inizio, perché è appena all'inizio il senso della coscienza delle conseguenze sociali, perché c'è una crisi economica, eccetera, eccetera. E quindi penso che queste forme di protesta siano, per rispondere puntualmente alla sua domanda, da una parte il segnale di un malessere che affiora di più, ma dall'altra che sono dei tentativi, un po' chi si muove al buio e al buio cerca di definire lo spazio intorno a sé, non sono ancora una forma di protesta. Ad esempio io credo molto in una forma di protesta che appena inizi, che è lo sciopero del consumo, che è la vera forma di protesta. Se io non lavoro, inibisco la mia funzione di produttore. Se io non consumo, inibisco la mia funzione, non compro, non acquisto, inibisco la mia funzione di consumatore. Tra le due è molto più dannosa la seconda. Io non ho mai visto un sindacato che dica astenete dai lavoratori di un certo comparto per un giorno da comprare una cosa. Quella sarebbe veramente una cosa che può essere dirompente. E non è che ci vuole tutta questa fantasia per pensarlo. Qualche dubbio sulla rappresentanza dei sindacati, quando a nessuno viene in mente di dire una cosa così banale, mi viene. Non so se no. Se posso continuare, però quanto è attuabile questo sciopero del consumo se il consumo è così pervasivo nella nostra società? È proprio perché è così pervasivo che è un'arma straordinaria, cioè nel senso, proprio perché è pervasivo, se si addivenisse, in taluni casi qualche tentativo è stato fatto, non in Italia, se si addivenisse a un forte lavoro di, come dire, responsabilizzazione di coscienza, avrebbe un impatto straordinario. E ci sono degli studi anche su questo, perché vedo in alcuni paesi questo cosa e questo sono anche stati tentati. Bloccare il consumo per un torno di tempo molto breve di un bene, uno yogurt, un elettrodomestico, o per dire la cosa più banale, se noi per un giorno non utilizzassimo un cellulare o non mandassimo sms, adesso pensate ciascuno di voi, che dove più, quanti messaggi ho mandato oggi, quante telefonate ho fatto, ecco, se per un giorno non si facesse questo, il danno economico rispetto a un datore di lavoro che ad esempio ha una condotta antisindacale, fortissimo. Non è impossibile, Ecco, questo è il cambio di paradigma. Cioè, sembra impossibile perché non è mai stato fatto in modo altrettanto pervasivo. Il consumo è pervasivo, quindi anche il non consumo lo è. Solo che bisogna pensarci. Questa è un'opinione, naturalmente. Prego. Una domanda. Cioè, chi sarebbe il soggetto rispetto allo sciopero del consumo? Perché pensare a soli dipendenti di un'azienda penso che sarebbe inefficace. No, cioè, è ovvio. Però, appunto, allora chi sarebbe a dover chiamare allo sciopero del consumo? Nel senso che il sindacato ha a che fare con, appunto, il lavoro, più che con il consumo. E quindi mi chiedo, invece sull'esempio, sullo sciopero del consumo, invece volevo dire, io so che negli anni 30 il sindacato della CNT in Spagna faceva anche gli scioperi del consumo, so che li hanno fatti, però appunto erano anche efficaci, però c'era un'identificazione rispetto al sindacato da parte degli aderenti che oggi, cioè se la CGL dovesse chiamare uno sciopero del consumo, non so, mi sembra proprio perché non c'è questo ritrovare un significato all'interno del lavoro, quindi non nel sindacato. Quindi... Quello che lei dice in realtà apre un ventaglio di riflessione, cercando di concentrarle molto. Certamente uno sciopero di questo tipo non può essere limitato soltanto ad esempio ai lavoratori di una fabbrica, ma proprio per questo motivo sarebbe una forma di recuperare un elemento che è stato fondante dei movimenti mutualistici e poi dei movimenti sindacali, che è quello della solidarietà. Che è quello che ahimè si è perduto, cioè io non tutelo solo le pecorelle del mio recinto, io tutelo i lavoratori. Così, quindi, proprio recuperando una funzione primigenia della tutela del lavoro, si dovrebbe pensare a delle forme di protesta che non riguardano soltanto un ristretto numero di lavoratori, ma possano invece ampliare. Però quello che lei dice in realtà porta automaticamente a un tema che entra perfettamente nel post-fordismo e nel superamento delle strutture prima del fordismo. Cioè attualmente, poi domani chissà che accadrà, ma attualmente i sindacati sono molto poco rappresentativi. Però accanto ai sindacati esiste un mondo di associazioni e movimenti che invece prima non esistevano. Fino agli anni 70 sostanzialmente, come in una certa approssimazione si può dire che il Partito Comunista, i partiti comunisti tradizionalmente organizzavano il voto, l'orientamento ideologico dei lavoratori dell'industria, così i sindacati ne esprimevano un certo tipo di partecipazione al mondo del lavoro. Adesso questo non è più vero. Non è più vero però anche perché esistono delle altre forme, quindi effettivamente in un ipotetico sciopero del consumo io immagino che i soggetti coinvolti siano chiaramente ben al di là del gruppo dei lavoratori e del sindacato che li rappresenta. L'esempio che lei portava della Confederazione Generale del Lavoro Spagnola è vero, però è anche molto diverso il contesto, perché in quel caso si trattava soprattutto di beni primari, eccetera. Però la cosa fondamentale, questo sì, infatti prendo la sua sollecitazione con particolarmente acuta, è che pur nella particolarissima congiuntura della storia politica spagnola della Seconda Repubblica, però era un tipo di sindacalismo, tanto il sindacalismo bianco di matrice cattolica, come il sindacalismo socialista, come il sindacalismo anarchico fondamentale, che si legava fortissimamente al concetto di solidarietà. Questo ce l'avevano tutti in ambiti declinati in forme diverse, cattolici, socialisti, anarchici, comunisti, cioè, e mentre invece questo è proprio l'elemento che si è perduto. Però io temo, scusate, di estendermi troppo, non vorrei rubare. Poi c'era un'altra domanda che mi aiuta al discorso che volevo rivolgere da loro, perché cioè, appunto, per cui mi sembra che quasi si tende ad abbandonare il luogo il lavoro come una specie di luogo di risorsa. Io mi chiedevo, rispetto a voi che appunto dite che siete posti in questa domanda, no? Cioè domandate al lavoro quanto invece sia legato a un retaggio culturale, nel senso che i movimenti di sinistra comunque hanno sempre caratterizzato, cioè sia da parte maschile che da parte femminile, il lavoro è sempre stato un luogo di identità molto forte. E io mi chiedo ovviamente anche le generazioni che vengono dopo di noi, quanto abbiano questa, cioè quanto abbiano questa esigenza di trovare un senso nel lavoro, nel senso, proprio perché siamo in un periodo di cambiamento molto radicale, se non si ha a volte anche uno sbattere la testa su cose che poi non tornano, cioè che perdono appunto di significato. Poi la risposta è sempre quella che non ci aspettiamo, perché forse i cambiamenti sono così radicali che non... Sì, che non... cioè, è sbagliato, non esiste, non so. Senza negare poi la centralità del lavoro, non bisogna lavorare da che fare, però... C'è un'altra domanda, No, se vi eravate poste la questione, cioè del perché vi chiedete questa domanda qui, non solo come vabbè, la cerchiamo nel lavoro perché non troviamo altri spazi, se c'era la possibilità secondo voi che fosse anche legata a un'abitudine culturale a cercare la risposta nel lavoro. Quello che dicevi tu prima, no? No, sicuramente puoi rispondere meglio su sì, mi sembrava in realtà l'intervento di Antonella inizialmente, nel senso che noi abbiamo avvertito inizialmente questa urgenza del tema del lavoro proprio perché arrivava dall'esterno l'idea di definirsi attraverso il lavoro, che è sicuramente un retaggio del passato e che adesso non risulta neanche molto praticabile per noi. E in realtà il passaggio di aver riconosciuto una carenza della dimensione pubblica è stato successivo, nel senso noi siamo partiti dall'idea, siamo abituati tutti un po' a utilizzare il lavoro come una sorta di biglietto da visita che poi dovrebbe rappresentare identità. D'altra parte il fatto di percepire il lavoro invece come una dimensione molto soffocante testimoniava proprio del fatto che l'identità eccede quello, e la ricerca invece di portare avanti altri progetti va proprio in quella direzione lì. Però ci è sembrato che da parte nostra ci fosse un certo assecondare questa tendenza in virtù del fatto che molto spesso la dimensione del pubblico risulta ridursi appunto a quella del... Dopodiché, banalizzando, diciamo, è possibile ignorare il lavoro come condizione centrale, no? Chiaramente, quindi è nel conflitto tra l'eccedenza dell'identità e l'eccesso del lavoro, perché è una condizione necessaria, ma in realtà è insufficiente per vivere, visto che la nostra precarietà è innanzitutto legata a lavori che svolgiamo senza essere remunerati o comunque mai abbastanza. Quindi accollarsi in una giornata diurna, diciamo così, di 12 ore, un lavoro che o due, che magari te ne occupano 10, che magari altre due le usi per spostarti, è chiaro che il lavoro diventa un momento di riflessione, dentro o fuori del lavoro, ma bisogna agire anche all'interno della dimensione. Però c'è un punto a questo punto, credo che veramente non debba essere definito, e che è la definizione di che cos'è il lavoro. Cioè, perché proprio la cosa fondamentale, se io, prendendo dagli appunti che ho scritto durante il vostro intervento, ho di ognuno del vostro intervento ho individuato un termine, e questi sono vuoto, trappola, tirannia, futuro negato, spezzettamento, meccanismo soffocante e così via. Ma questo non è il lavoro. Cioè, il punto fondamentale è, se vogliamo, adesso perdonate una semplificazione, che ci si può far credere che questo sia il lavoro. E quindi c'è un problema a definirsi rispetto a questo. Ma questo non è il lavoro. Questa è l'aberrazione del lavoro. Cioè, il lavoro è dignità, il lavoro è libertà, a condizione che sia fatto nel rispetto di una serie di condizioni della persona. Quando queste condizioni non ci sono, io rifiuto che questo sia lavoro. Infatti voi mi dite vuoto, trappola, tirannia, non è lavoro. Quindi io credo che bisognerebbe proprio partire da definirsi rispetto a questa cosa che viene chiamata lavoro, e lavoro non è, e ciò che forse è anche un primo passo verso liberare delle altre energie. il lavoro che vorremmo. Mi scusi, no, se no, mi no, sono introdotto così. Alla... No, ma non parlo perché era quello che volevo chiedere. Allora, allora sì. Quindi, cioè, comunque una cosa, volevo chiedere, diciamo, la domanda provocatoria che arrivato dal socio, mi piace andare a essere diretto. Se da ventenni e più, quasi poco di più, se pensate, ma voglio però una risposta diretta, se pensate che veramente legge Biagi e comunque tante altre situazioni abbiano veramente disboscato la generazione vostra e aperto un conflitto vero, generazionale, per cui c'è questa cappa di plexiglass, no? Come si dice? Per cui non c'è più la possibilità ai lavori, perché non c'è proprio, voglio dire, quell'egoismo, l'esempio che faceva il professor Sabatini degli alberi, no? Dico, cioè, questa cosa, come pensate di, in questo senso, uscire? La domanda delle domande. E poi un'altra domanda riguarda quel che pensate della autoevidente così strumentalizzazione del corpo femminile in certi tipi di lavori, al di là di dare tutta colpa alla società, ai mass media, eccetera, mi riferisco a belline e cose varie, insomma, fino anche alle candidate belle per dei consigli comunali, eccetera, di un certo tipo di politica. Per quanto riguarda il che cosa definiamo, cos'è il lavoro, eccetera, penso che ci sia una differenza tra il concetto che a lei ha portato lei del lavoro, no? Quello che ha detto adesso, il lavoro è dignità, il lavoro è libertà, quello di cui parlate voi non è il lavoro, però noi siamo cresciute e viviamo attualmente in una condizione lavorativa che è questa, per cui lei dice se non è tutela, se non è dignità, eccetera, io la rifiuto, però noi stiamo vivendo in un periodo in cui, come diceva appunto lei, non esiste la tutela, cioè noi ci ritroviamo, la maggior parte di noi, ora prendo me, ma siamo tutte sulla stessa barca, ci ritroviamo a fare 2-3 lavori che ci occupano 15 ore al giorno per fare uno stipendio che tocca i 1000 euro. E lei dice questo non è lavoro, però è questo quello che ci si offre oggi, è questo quello a cui noi dobbiamo, cioè quello che dobbiamo affrontare, è questo il lavoro per noi. Affrontare e superare, però non lo assumiamo come un dato. No, ovviamente, non è vittimismo, è la realtà. Cioè, attualmente questa è la condizione. Poi è chiaro che, come abbiamo detto, noi sentiamo di eccedere, no, questa condizione. Ovviamente il nostro tipo di lavoro, come diceva Angela prima, è un lavoro cognitivo, quindi magari è diverso da quello che può essere un'altra situazione, un altro tipo, però qui siamo all'università, insomma, penso che bene o male la situazione sia questa. Ovviamente il di più che noi pensiamo di portare al mercato, quello che è stato appunto la feminizzazione del lavoro, il di più che abbiamo portato, ci sembra che ci si sia rivoltato contro, che non sia stato appunto che questo di più non sia stato un valore aggiunto che il mercato ha preso per dare vita a un qualcosa che potesse superare quello che era appunto il fordismo, eccetera. Piuttosto ci si è rivoltato contro, perché da quello che dal lavoro fisso che nessuno di noi conosce, però che i nostri genitori hanno conosciuto e in cui nessuno di noi si riconosce, siamo arrivati a un lavoro che non è fisso, che è flessibile ma precario e che ci impedisce di progettare il futuro, ci impedisce addirittura di immaginarlo e ci impedisce fondamentalmente di poter realizzarci e di poter realizzare il nostro desiderio all'interno del lavoro, tant'è che noi il nostro desiderio lo andiamo a cercare fuori, qui, la rivista, abbiamo a questo punto, siamo arrivati a un punto in cui il nostro desiderio l'abbiamo ridimensionato e l'abbiamo direzionato da un'altra parte e non più sul lavoro. Questo. Però probabilmente qualcuno vi potrebbe dire che quello che voi state facendo è un lavoro creativo. Però non è salariato. Cioè il lavoro salariato è il problema. Però c'è una, su questo c'è l'effetto di ambivalenza, nel senso che c'è una cosa sulle condizioni di lavoro, no? Cosa possiamo, a quali condizioni un lavoro si può chiamare tale, no? Che era la domanda che l'ha importante. E poi è vero che c'è un discorso da fare sui contenuti del lavoro. Allora, nell'esperienza delle donne è successo anche questo, perché dipende, alcuni contenuti, anche creativi, espressivi, di libertà nei lavori, si sono accettate condizioni non favorevole probabilmente, questa è l'eccedenza di cui si sta parlando, no? La femminilizzazione è stato anche questo, diciamo, come dato culturale. Poi è vero che però questa cosa qui è diventata una condizione di cui si è perso il controllo e che, come dicono loro, in qualche modo di cui il mercato in qualche modo si è appropriato. Quello che mi sembra interessante è da dire, no? Cioè quindi la domanda sul cosa fare, no? Io credo che quello che lei diceva prima, che siamo in una fase di invenzione, no? Cioè, in cui ci proviamo a immaginare le forme di protesta, di rifiuto, le forme in cui, no, cominciare a dire no a delle cose che sono anche sembrate in qualche modo, per certi aspetti, forme di apertura, perché un po' lo sono state. Ci sono quella generazione di donne che si permette di fare in condizioni pessime alcune cose che desidera fare, no? Le madri del lavoro fisso probabilmente hanno rinunciato un po' di velleità. Diciamocelo, no? Si sono messe a fare dei lavori salariati nel mondo dei servizi, della pubblica amministrazione e avevano secondo me il modo di esercitare quell'eccedenza di identità in una politica che forse negli anni 70 per esempio si poteva vivere con più identificazione, insomma i problemi sono tanti, però probabilmente la cosa interessante è che quello che stiamo facendo è pensare a inventare le forme di dire no, la novità è che questi anni ce li siamo presi per raccontarlo questo mondo del lavoro, no? Per raccontare come è diventato, cioè come dire, per cominciare a fare circolare le esperienze e poi ci siamo trovate però in un oiato, cioè in una specie di blocco, per cui abbiamo capito che il mondo del lavoro è cambiato, ci siamo cambiate noi dentro, inaspettatamente abbiamo anche, come dire, da una parte goduto di alcuni benefici, di alcune aperture di libertà, ma poi siamo rimasti anche un po' sepolte, diciamo, dalle macerie e dalle contraddizioni, si tratta di capire dove andare. Ora io sul problema, il lavoro come ambito super investito, ambito che si dà, cioè come dire, super investito nel quale c'è il riconoscimento e anche una possibilità di azione, di agire politico, io credo che su questo anche ci sia un circolo ormai, no? Cioè si cerca molto nel lavoro perché alcune forme tradizionali di impegno sembrano, come dire, un po' venire meno, ma è anche vero l'opposto, che è molto difficile inventarsi dei luoghi di impegno, no? di costruzione, di agire collettivo, perché lavori tantissimo, cioè lavori sempre, cioè quindi, come dire, io non penso che questo sia un effetto indesiderato, cioè mi viene da qualche parte una mano invisibile che questa cosa se l'era immaginata, appunto il riferimento che faceva lei a Marx a questo allungamento dei tempi del lavoro, cioè in condizioni che forse Marx non si poteva immaginare, però come dire, l'intuizione che il capitale si sarebbe mangiato gli spazi di vita e indebolito le capacità delle persone di creare legame, di creare legame collettivo, forse è un po' questo. Io che non faccio parte della generazione delle autrici della rivista, ma che ho sperimentato le stesse forme del lavoro con le mie amiche con cui ci siamo avventurate felicemente in percorsi di flessibilità per certi aspetti anche appunto positivi, adesso non avremmo il tempo di fare politica e dopo queste elezioni ci siamo dette bisogna cambiare qualcosa, cioè bisogna dire no anche a questa invasione appunto nel tempo della politica per uscire, cioè è proprio a questo punto è un'azione volontaria, cioè quello che noi abbiamo anche molto perso come società è il senso dell'azione, dell'agire, che è, cioè qui bisogna riprenderci Anna Arendt proprio in pillole e flebo e come dire, capite che l'azione è una cosa che si costruisce e la costruisce all'interno di un campo che è libero, no? Cioè un campo appunto in cui impedisci che le cose ti vengano addosso, questa cosa della dimensione pubblica che diceva Anna Arendt è quella fase in cui è in between, no? È il tavolo che metti fra due soggetti in cui un'azione la decidi, la programmi, la progetti, siamo lì, cioè secondo me, cioè siamo in un punto di blocco, di osservazione di vuoti, di contraddizioni che si sono aperti e la necessità di reinventarci una vita pubblica libera dal lavoro e piena di politica, cioè però a questo punto è una roba da immaginarsi, ognuno nei propri contesti di vita. Io stavo pensando per esempio fuori da logiche identitarie anche, no? Cioè, proprio perché non ci rappresentano più, insomma, le forme tradizionali. Allora, i luoghi di vita però che esistono ancora, perché esistono le scuole, esistono i quartieri, esistono i posti di lavoro, per quanto flessibilitati siano, ma insomma, la gente alla mattina ci casa più o meno a fare cose strane, a fare... Non tutti, ma più di quanti noi diciamo. Cioè, io credo che in effetti la nostra riflessione anche femminista sul lavoro e la sua come dire, capacità di restituirci senso in qualche modo si vada un po' a nozze con la ridondanza sul lavoro che viene da un certo tipo di mondo. Io penso che ci abbiamo la responsabilità anche come donne, che bisogna cominciare a dire no, il lavoro è il lavoro pagato, il lavoro me lo paghi il giusto, oppure appunto sottrarsi, ma non come autoriduzione, come mettersi ai margini, ma come capacità poi di investirci altrove. Una domanda sciocca, professore. Che mondo se una domanda non è sciocca, che mondo sarebbe oggi se non ci fosse stato il passaggio dal fordismo al post-fordismo? Saremmo rimasti come negli anni 60 oppure sarebbe stato un cambiamento? La storia controfattuale è sempre molto difficile a farci. Quello che si può dire è che, riformuliamola in questi termini, se non vi fosse stata la crisi degli anni 70, noi possiamo per ipotesi immaginare che questo lungo momento di crescita che inizia per le società occidentali dopo la seconda guerra mondiale sarebbe continuato e probabilmente il modello fordista si sarebbe evoluto soprattutto in funzione del processo della divisione internazionale del lavoro, cioè sarebbe ancora, noi attualmente assistiamo a due tipi di conflitti, i conflitti interni alle società più evolute, molto ambigue, diciamo più sviluppate economicamente, e i conflitti tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Probabilmente se non vi fosse stata la cesura degli anni 70 che ha agevolato il passaggio dal modello fordista a quello post-fordista, noi vivremmo in modo ancor più accentuato il solo conflitto, prevalentemente il conflitto tra paesi e aree in via di sviluppo e aree sviluppate. Non so se ho risposto alla sua domanda. Dire più di questo mi è un po' difficile, a meno che lei non abbia in testa qualcosa di più, forse, cioè c'è qualcosa di più che vuole dire. No, però nel senso, se non ci fosse stata la crisi degli anni 70, se non avanti col tempo, le crisi successive, si sarebbe avuto lo stesso il passaggio tra fordismo e post-fordismo, con la crisi degli anni 90 o anche con quella recente? Sì, senz'altro sì, cioè nel senso che, allora, se la domanda è se questo passaggio era inevitabile prima o poi, senz'altro sì, solo che i tempi con cui questo passaggio si è prodotto, il momento e i tempi, hanno influito anche molto sulle modalità. Quindi, però certamente questo sarebbe prima o poi accaduto, perché questo in effetti ci permette di recuperare la buona anima di Marx. Effettivamente alcuni delle contraddizioni, come ad esempio quelle sull'orario di lavoro, ma anche sull'accumulazione di capitali, eccetera, erano addirittura 100 anni prima della crisi degli anni 70 del XX secolo, cioè negli anni 50 e 60 dell'Ottocento erano già presenti, quindi sì, cioè, diciamo che per quanto possa farsi storia controfattuale direi sì. Un paio di domande. Rilacciandomi a questo fatto del passaggio tra fordismo e post-fordismo, a me quello che, cioè, sul fatto che si abbia da documentata significativa, no? Il 1880, insomma, con le elezioni di Reagan e di Thatcher, con un momento di svolta, diciamo, simbolico, ecco, il fatto che questo avvenga, quindi, diciamo, alla fine degli anni della crisi degli anni 80, solamente si stessa, pensa, no? Presumibilmente col malcontento dovuto alla situazione di crisi che offerta, però vuol dire anche la crisi degli anni 70, dal punto di vista dei suoi effetti sociali, è stata molto più contenuta rispetto alla crisi degli anni 30. Cioè, vuol dire, la presenza dello Stato sociale ha consumato, ha retto e ha contenuto, quindi non lo so, a me stupisce comunque il fatto che è anche detto lei non condivide questa idea meccanicistica, interpretazione meccanicistica del passato, cioè di vedere il postfordismo come un esito inevitabile del fordismo, quindi vuol dire che c'è stata una scelta, dire politica, una scelta intenzionale per accentuare questo passaggio. E allora chiedo, cioè, dov'è cioè vuol dire che c'è una scelta intenzionale, quindi con una qualche finalità, cioè qual è questa finalità, perché si è scelto di cambiare un modello, di cambiare un modello che comunque aveva avuto, con tutti i suoi pregi e difetti, aveva avuto, se non altro, il pregio veramente che di limitare la crisi degli anni 70, cioè che la crisi degli anni 70 non era quella degli anni 30. Poi un'altra questione era, se ho capito bene, però penso di aver travisato, lei ha detto che il prossimo, se prima rispondere, sì, su questa cosa, no? Anche perché poi diciamo che con lei è un buon gioco, perché siccome lei ha seguito i miei corsi, per cui questi discorsi li abbiamo fatti a IOSA in tutte le salse, attenzione, non confondiamo i soggetti e l'oggetto del cambiamento. Come lei ricorderà, noi attenzione, abbiamo insistito molto sul fatto che lo Stato sociale che si crea dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni 70 è il cuscinetto che attutisce la crisi. Quindi quel modello, come lei dice giustamente, in fin dei conti non c'era motivo di abbandonarlo, se non altro appunto ai fini di minimizzare gli effetti della crisi. Ma quel modello non viene abbandonato perché la gente dice che strazio questo Stato sociale puntiamo. Quel modello viene abbandonato da poteri economico, finanziario, produttivi che vedono in quel modello un ostacolo a una grande manipolazione della società. Una società che è messa a riparo dai punti più aspri della crisi è una società meno manipolabile da una società che sta con l'acqua alla gola. Se noi guardiamo adesso la conseguenza di questa crisi economica rispetto alla crisi degli anni 70, dove c'erano molti più ammortizzatori sociali, negli anni 70 i tanto deprecati ammortizzatori sociali hanno fatto sì che una crisi ben peggiore di questa abbia avuto dei costi sociali molto minori. Ma una società in cui per sopravvivere bisogna fare tre lavori è una società in cui è molto più difficile protestare. Quindi, per questo dico, attenzione al soggetto, all'oggetto del cambiamento. Il cambiamento delle società che si registra a partire dagli anni 80 non viene dal basso, viene dall'alto. Io non ho mai sentito un operaio in cassa integrazione dire basta con questa cassa integrazione, voglio essere disoccupato senza nessun sussidio. E la prova contraria è piuttosto improbabile che uno dica una cosa del genere. Cioè basta con questa assistenza sanitaria, io voglio essere lasciato senza assistenza sanitaria perché così lo Stato recupera la sua funzione. E c'è qualcuno che poi un bel giorno viene a spiegarci che appunto questi sono dei fattori che disturbano il mercato. Ma io non ho mai visto nessuna manifestazione contro lo Stato sociale, mi risulta, me no. Mi risulta una cosa, però. Non so però se prima far completare al suo collega la seconda domanda, lascerei che proprio possa moderare il dibattito. Ci sono dei gruppi sociali, mi sembra di aver seguito la tribuna politica, forse non zero, insomma, forse è la gente dell'altro, adesso non ricordo bene la fonte, comunque ricordo questa signora che diceva che lei sta in cassa integrazione con 750 euro al mese e non poteva trovarsi un altro lavoro, i lavori che trovava erano a nero e se l'avessero scoperta avrebbe sostanzialmente rischiato la cassa integrazione. Quindi chiedeva al governo, non so, mettetemi, fatemi vedere, devo fare o mi vado la cassa integrazione, io vado a fare il mio lavoro in nero, però faccio tre lavori, arrivo a 1.100 euro dopo avere un affitto di 700 euro, 752 vado, scusate, ero un maestro, oppure cioè, provvedete a darmi una cassa integrazione che sia maggiore. Quindi cosa fare? Cosa fare? Come fai a dire no? Qual è l'azione politica da attuare? A me va bene lo sciopero dei consumi, però forse andrebbero fatte veramente settimane. Sì, altre cose, questo è il problema. Però guardi, adesso temo che ci stiamo allargando su molti temi, che nella creazione di una serie di ammortizzatori sociali ci siano state e ci siano storture e aberrazioni, non c'è il dubbio, e qualcuno appunto con il suo collega che seguiva i miei corsi li abbiamo visti, non c'è dubbio, però che ci sia ad esempio un dibattito molto lungo in Inghilterra, che è il primo paese che ha sperimentato il sussidio di disoccupazione, e se il sussidio di disoccupazione costituisce un disincentivo a cercare un altro lavoro. Cioè, per carità, questi ci sono infiniti aspetti su cui discutere, però tendenzialmente io credo che questi siano aspetti più tecnici che non, per così dire, ideologici. Cioè, è possibile trovare delle forme di sostegno sociale che non disincentivino. Se io vengo pagato per stare a casa lautamente, certo, questo mi toglie la buona volontà probabilmente di fare altro che non quello che piace. Però qui stiamo parlando veramente un po' di fenomeni al margine, e per di più ormai sono dei fenomeni che rientrano appunto in quella casistica che io cercavo di dire tra chi gode di una protezione completa e di chi non gode di nessuna protezione. Il dato aberrante è che l'Italia è entrata in una fase di recessione nel secondo semestre del 2008 avendo una quantità di popolazione lavoratrice che non si riesce a quantificare, che non si sa esattamente quanto sia, è completamente priva di tutele. Ora, sicuramente tra chi è tutelato ci saranno moltissimi, come dire, casi discussi e discutibili, ma che non si sappia neanche quanti sono coloro che non sono tutelati, denuncia un problema. Che chi goda di protezioni può in determinate condizioni goderne troppe. Sì, vi è stato un periodo in cui era possibile, fino a non molti anni fa, fino a principio degli anni 90, andare in pensione per i dipendenti pubblici con 15 anni, 6 mesi e un giorno di lavoro. Questo è chiaramente aberrante, nessuna società può reggere una cosa di questo tipo. Quindi io non nego le aberrazioni, però partire dalle aberrazioni per dire tutto va disfatto, però forse questo è un tema che ci porta un po' lontano. Lei vuole aver dato una seconda domanda? Se è possibile, volevo. No, riallacciando a quello che hai detto che cada dalla scelta e cada dall'altro, però vuol dire Thatcher e Reagan sono stati eletti in paesi democratici, con elezioni democratiche, sì, quindi secondo me è un problema. Anche in Italia abbiamo elezioni democratiche. Esattamente, benissimo. È un problema. Però caleremo una mantovana. Benissimo, però c'è questo allora, un problema sulla democrazia, la voglia. Un problema serio secondo me. Ecco. E poi no, però tenga presente che esempio la Thatcher è una cosa che non si dice mai. La Thatcher dopo il suo primo mandato, cioè a pochi mesi dalle elezioni, la Thatcher non sarebbe stata affatto rieletta se non che un manipolo di generali argentini gli fecero l'enorme favore di invadere quattro scogli in mezzo al mare, cosa sulla quale una grande democrazia come l'Inghilterra non avrebbe dovuto reagire, mettendosi allo stesso livello appunto di quattro generali mandando a fare la guerra, perché su un'ondata peraltro effimera di ipernazionalismo la Thatcher è stata eletta, cosa che probabilmente non sarebbe stata. Cioè, questa è la storia controfattuale. Cioè, voglio dire, attenzione che poi ci sono Il caso di Reagan è diverso, perché il caso di Reagan invece riprende tutta l'onda lunga dello sviluppo economico degli anni Ottanta, è stata una fase di grande crescita, di grande espansione, e quindi le misure adottate sono state controbilanciate da quella fase. Al contrario, adesso che l'America è entrata in recessione dopo 8 anni di un'amministrazione repubblicana che ha inciso su determinati snodi degli apparati economici produttivi, sono lacrime nel sangue. Cioè, quello che volevo chiedere era poi un'altra considerazione, cioè se mi pare, se ho capito bene, lei ha detto che il successo del terrorismo, del fordismo, può essere visto tanto come una delle concause che hanno favorito poi la formazione dei regimi autoritari e totalitari, se ho capito bene. La strutturazione della società legata ai regimi, la strutturazione della società legata ai sistemi produttivi tipo fordista, soprattutto nella prima metà del Novecento, è sicuramente un veicolo di diffusione di ideologie autoritarie e totalitarie, per un motivo molto semplice, perché la società fordista è una società irregimentata, in cui si esercita anche molto facilmente un controllo che attraverso il controllo del lavoro. La fabbrica è un grande contenitore su cui si può facilmente influire. Il controllo che si può realizzare nelle società del post-fordismo è molto più basso. Questa è infatti la grande motivazione per cui nell'età del post-fordismo tutti sono lì che arrancano per sopravvivere, che arrancando per sopravvivere, il tempo che resta per battaglie, uno se lo trova appunto sottraendo da altre cose. Però il terrorismo, il fordismo, insomma, ha anche prodotto i suoi storni. Forse era questo che volevo dire, negli Stati Uniti non sono. Sì, è vero, questo è vero. Però è altresì vero che gli Stati Uniti sono anche una società fordista molto particolare, perché è una società che conosce nel periodo che va dal 1890 almeno al principio degli anni 20, quando vengono riviste le leggi sull'immigrazione, una esplosione democratica tutte le immigrazioni, che fa sì che tutte le tensioni vengono convogliate in questo tema dell'integrazione razziale. Quindi il caso degli Stati Uniti è veramente, dal punto di vista, diciamo così, della struttura sociale, anomalo. Non esiste nessun'altra società i cui ranghi si rimpolpano continuamente di nuovo proletariato che viene immesso nel sistema, che viene formato, che quindi arriva a un certo livello di benessere, quindi cosa fa? Chiama i propri parenti dall'Ucraina, dalla Polonia, da Basilicata, dall'Abruzzo, dalla Galizia, e veramente gli Stati Uniti in questo senso non. Infatti, quando è il momento in cui gli Stati Uniti sono attraversati da delle tentazioni di tipo autoritario? Quando si chiude il rubinetto dell'immigrazione negli anni 30, in realtà negli anni 20, comunque con la crisi degli anni 30, perché negli anni 30, come lei sa, c'è un movimento che peraltro fa capo a un più grande editore americano, il gruppo Hearst, controllava all'epoca giornali e radio, e questo è descritto molto bene nell'ultimo romanzo di Philip Roth, non so come è stato tradotto in italiano, Lotto, il libro che è stato pubblicato 2 anni fa, che si immagina che alle elezioni del 1940, invece di vincere come fu Franklin Delano Roosevelt, vince come candidato xenofobo, filo tedesco, Charles Lindbergh, il trasvolatore che aveva fama di essere uomo molto di destra, ma quella, la finzione di Roth in realtà non è molto lontana da una realtà. Persino in Inghilterra vi è un movimento di destra, cioè nel senso che anche le democrazie, come indiscutibilmente Inghilterra e hanno una venatura autoritaria che attraversa la loro società identica. Qui ci siamo molto lontanati. Comunque il legame tra un certo tipo di governo autoritario e la strutturazione della fabbrica in senso fordista e terrorista è stato messo molto bene in luce nell'analisi dell'oppressione delle masse fatta da Simone Weil, che appunto rileva proprio come la struttura della fabbrica contribuisca al completo distaccamento tra il fare concreto in quel momento in fabbrica e l'attività del pensiero, e fa sì che si produca proprio nell'operaio al lavoro un'abdicazione al proprio senso critico, al proprio pensiero, che poi produce la massa oppressa che farà poi da gradino, cioè da punto di partenza a un tipo di governo totalitario. Allora, se siamo d'accordo, dato che siamo arrivati quasi alle 7, farei l'ultima domanda, poi chiudiamo. E volevo riallacciarmi al discorso che si faceva prima con Sandra su sto prendiamo coscienza, che è anche colpa nostra, cioè se la condizione di questo lavoro ci permea completamente, anche un po' perché abbiamo dato la... Cioè, ci siamo dentro. Abbiamo dato però... Comunque diciamo insomma un gran calcio l'ha data la femminilizzazione che si è inserita nel lavoro, ecco, quindi volevo domandare a voi, ovviamente non volevo uscire all'esterno, e letto il numero di TVF è chiaro che c'è coscienza di questo fatto, altrettanta coscienza c'è però che il lavoro stabile di 20 anni fa, 40 anni fa non è assolutamente pensabile, un po' perché è un lavoro che non appartiene proprio, no? Quindi vuol sapere insomma se la prospettiva passata non è possibile, se quella presente ovviamente non è sufficiente né alla sussistenza né al desiderio, qual è la riflessione dove ci porta? Guarda, noi non è che abbiamo una palla di cristallo, non lo sappiamo, cioè, nel senso non lo sappiamo. Questa è una riflessione che noi abbiamo fatto tutte insieme, e come diceva Sandra prima, anche se non sembra, no, perché come il professore ha detto subito, la prima cosa che è venuta in mente è ok, ora che facciamo? Anche se non sembra, un passaggio c'è, perché dagli studi sulla femminilizzazione del lavoro degli anni 90 e inizi 2000, poi si è passata alla narrazione, e c'è stata tutta una fase in cui soprattutto a Milano con la Nannicini, con la Libreria delle Donne eccetera, si è passati appunto alla narrazione, quindi raccontare le donne dentro il lavoro, le donne nell'impossibilità di separare tempo di vita e tempo di lavoro, le donne nella caduta della dicotomia produzione e riproduzione, eccetera. C'è stato quindi un racconto. Adesso ci siamo rese conto, noi, partendo da noi e raccontandoci anche noi le nostre esperienze, che questo racconto non basta più, perché appunto siamo arrivati in un momento storico in cui, come si diceva, serve fare qualcosa, serve quindi, non solo le soluzioni, cioè è comunque, il nostro è anche una provocazione, è l'apertura di un confronto, di un dibattito, e anche prendere parola su una questione che è appunto la questione del lavoro. Ovviamente le soluzioni, cioè di soluzioni si può parlare tra giovani donne, tra giovani donne e giovani e donne non più giovani, con giovani uomini, con uomini più grandi, con la società intera, però è chiaro che adesso si sente il bisogno, noi lo sentiamo, si sente, lo sentono anche i ragazzi, suppongo, che ci sia necessità di fare qualcosa. Quindi ovviamente se si lavora 15 ore al giorno, poi non c'è possibilità di fare politica come si faceva negli anni 70, e quindi si trovano altre strategie. La nostra è questa, per noi questa è ovviamente pratica politica, no? E per voi è questo. Ovviamente. Quindi, due seminari sul lavoro significa comunque qualcosa. Ovviamente. Quindi le strategie ci sono, facciamo forse più fatica di, non so, io faccio più fatica di mia madre che ha sempre fatto la sindacalista e quindi i suoi spazi politici ce li aveva lì, si svegliava la mattina, lei andava al lavoro e c'aveva il suo spazio. Io lo spazio politico con loro, la mia pratica politica è, che ne so, la notte, la sera quando ho finito tutti. È ovviamente molto più difficile, però c'è, la volontà c'è. E questo è un punto di partenza, cioè non è una chiusura. La nostra critica al sottosopra della libreria delle donne è proprio questo. Il loro sembra appunto la chiusura, la fine di questo racconto durato 20 anni. E conclude immagina cose che come diceva Claudia è impossibile immaginare. La nostra è un'apertura, è un punto di partenza, noi da qui, tant'è che a questo seguirà un altro numero, sempre sul lavoro, perché è questa la questione urgente. Grazie. Allora, un paio di comunicazioni, intanto la rivista. Lei ha detto giustamente che nessuno ha lo sfera di cristallo, però io invece mi sento di dire, mai come in questo momento, una considerazione. Siccome per motivi personali e professionali mi trovo a viaggiare molto, soprattutto diciamo, e a vivere nelle quattro società latine dell'Europa, cioè l'Italia, ovviamente Francia, Spagna e Portogallo, io registro mai come in questo momento invece un grande fervore. Cioè, io ho fortissima la sensazione, perdonatemi l'espressione un po' profetica o messianica, di un mondo che verrà, che sta ribollendo. Cioè, questo nostro incontro di oggi, che io sono molto grato di aver invitato, mi avete veramente fatto un regalo, è stato un momento per me estremamente interessante, anche proprio come conoscenza della nostra attività, però si inserisce come un tassello di esperienze che io sto, contesti diversissimi, certo hanno come denominatore comune quello delle istituzioni scientifiche universitarie, ma non sono proprio dei pezzi completamente staccati dalla realtà, di esperienze diverse, contesti diversi, culture diverse, altre cose di questo tipo me le raccontano amici e colleghi che vivono negli Stati Uniti. Io penso che questo vostro impegno, questa vostra energia in più, voi già ve ne stiate riappropriando, forse più di quanto non ve ne rendiate conto, sinceramente. E dalla capacità di dire di no a chi si vuole appropriare del vostro tempo e dei vostri spazi, alla capacità di queste energie riappropriate, investire in altro, il passo è molto breve. Non è così lontano come si possa credere. E ripeto, io veramente ho la sensazione che questo piccolo lacerto di vita che abbiamo diviso non è così separato da tante altre esperienze che stanno germogliando. In questo senso veramente mi sentirei di essere un po', anche per, come dire, controbilanciare quella sequela di termini negativi che un po' cattiveria e ho tirato fuori, però di controbilanciarli. Io ho la sensazione veramente che ci sono delle esperienze che stanno maturando e che forse in termini di protesta o in termini di proposta potrebbero anche stupirci nella rapidità dei tempi in cui matureranno, complice anche la situazione economica che a onta di tutte le fesserie che si dicono non è affatto prevedibile che migliori in tempi rapidi, e forse anche un bene che non migliori, perché porterà ad affrontare in modo radicale. Speriamo presto. Grazie. Dicevo, due comunicazioni di servizio. Le riviste, per chi le volesse acquistare, sono qui, siamo a disposizione. Quelli sono i nostri contatti del gruppo Verlan. Tra qualche giorno avrete la registrazione sia audio che video di questo seminario. Gli altri già sono online. Per il prossimo seminario, salvo qualche piccola modifica di orario e di titolo, sarà il 21 aprile, tenuto dal professor Paolo Fabbri, sarà Linguaggio, Media e Potere, prospettive semiotiche. Grazie.